andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io voglio dire che Parenzio lo raffiguro in un faccia da culo da cane da caccia, mentre invece lei, signor Giuseppe, è, salvando sua madre, perché so che sarai di una madre onorabilissima, è un figlio di tre puttane. Io la trasmissione la riassumo in questo. Cosa ci è venuto da questo weekend pasquale, caro Parenzo? Ci è arrivato soprattutto un fatto che nella lontana Puglia, almeno lontana da qui, da Milano, da dove sto, un signore che si chiama Cosimo Mele, che tutti conoscono, sì, come quello che fu sorpreso insieme a due prostitute, pare anche alla cocaina. Anche se, esatto. Signora Pocahontas. Signor Cosimo Mele, all'epoca dell'UDC, partito dalla famiglia, eccetera, che fu sorpreso in un albergo romano con due prostitute, poi c'era anche della cocaina, anche se lui nega, processi in corso, querele da una parte e dall'altra. Pare sarà candidato, ha già stretto degli accordi, sarà candidato a essere sindaco di una città piccola che si chiama Carovigno con il sostegno del Partito Democratico. Bene, stupendo, meraviglioso. Cosimo Mele, amico mio, io ti abbraccio fortissimo, non hai nessuna colpa tu. Vieni appoggiato dal Partito Democratico. I radicali dovevano candidarlo, no? Il PD. I radicali, scusa. Gli amici vegani, animalisti, eccetera, eccetera. Voglio dire solo un paio di cose. Hai passato una brutta Pasqua, tu, eh? Poi avremo modo. T'hanno massacrato a te durante questa Pasqua. Ho letto alcune cose. Mentre mangiavo. Indigestione, appunto. Mentre mangiavo. Sì. Mentre mangiavo il mio agnello, mentre mangiavo il mio coniglio, mentre mangiavo tutta la carne possibile, immaginabile: bianca, rossa, nera, verde, eccetera, eccetera. Carne di animali. Mentre mangiavo carne di animali. Beh, leggevo ogni tanto Twitter, leggevo ogni tanto Facebook, leggevo insomma tutti i famosi social, no? Leggevo e a un certo punto mi imbatto in un personaggio che abbiamo intervistato qualche volta, in un signore che è il presunto segretario di un partito animalista europeo, presunto, di un fantomatico partito animalista europeo, un tale molto giovane che si chiama Enrico Rizzi, che abbiamo intervistato qualche volta qui alla Zanzara, così un passant, uno dei tanti, diciamo, no? Il quale ha scritto una frase molto gentile nei miei confronti: Cruciani, visto che mi leggi, se crepi sotto un tir, viaggio alla Madonna a piedi. Cioè, dire, lui farà, se io muoio sotto un tir, farà un pellegrinaggio a piedi verso non so quale santuario. Ma questo non mangerà la carne, ma è uno stronzo, però. Cioè, voglio dire, detto con rispetto, però, ma insomma, tu devi solamente vedere la mia pagina Facebook e altre pagine, invase da pazzi animalisti estremisti vegani. Devi dire da pazzi, punto. Da pazzi, non animalisti vegani. Nel caso animalisti, no, non voglio dire che tutti vegani e tutti è la stessa storia dei rom, sì, no? Però la maggior parte dei vegani, la maggior parte degli animalisti, quando tu gli dici che tu mangi carne, ti guardano, sai, c'è quello sguardo, sei un assassino in fondo, ammazzi un essere umano, sei un assassino, sì, ti guardano strano, ti guardano strano. In fondo ammazzi un essere umano. E poi alla fine sono una setta, perché ti guardano come per dire assassino. Esatto, ma tu alla fine si devono accoppiare per forza tra di loro. Cioè devono stare tra di loro, perché non possono stare. Cioè, non è che se tu consideri uno che mangia la carne un assassino di animali, che secondo loro sono uguali agli esseri umani. Secondo loro gli animali sono uguali agli esseri umani, hanno la stessa dignità. Cioè, se uno uccide un cane con una coltellata così per difendersi, beh, sì, è la stessa cosa se tu ammazzi qualcuno, cioè un essere umano. Per loro non cambia quasi nulla. Allora, se è così, è chiaro che si devono accoppiare tra di loro, perché tu non puoi sposare un assassino, no? Non ti puoi mettere con un assassino. No, sì, è un problema che non mi sono mai posto. Ma come oggi, per te gli ebrei, no? Se, sarebbe strano se tu ti metti con un... Beh, è sempre la solita cosa delle sette. C'è la setta, no, di fondo. Sette? Sì, è l'appartenenza ad un mondo. L'appartenenza è una cosa, la setta è un'altra. Fammi cavolare più o meno, dopo la dai, più o meno siamo lì, dai, siamo lì, siamo lì. Allora, Sgarbone, tutto da sentire, Sgarbone, naturalmente, Sgarbi sul padiglione Italia questa mattina dalla signora Merlino. Sì. La signora Merlino, sì, Sgarbi scatenato sul padiglione Italia e sull'ex. Ho visto, basta, l'ho visto. Mi fa cioè, io sì, pure gli altri, visto, no, gli altri scusami, no. È vero anche questo. Vero. Yeah, we run a little bit hot tonight. Castello Forzesco è del tutto inquinato dall'Expo Gate, due baracche immonde costruite da uno studio che neanche nomino perché gli fanno tenerezza, spendendo 7 milioni di euro per coprire il castello. Due baracche immonde, l'Expo Gate. Chi è venuto a Milano avrà osservato quelle robe lì davanti al castello. Anch'io le trovo brutte, però sono provvisorie, chi se ne frega. Comunque, secondo Sgarbi, sono due baracche immonde. 92 milioni di euro per un manufatto, lo vedi? Che lo finiscano o meno, è un cesso immondo! Non è tollerabile! Poi ancora una merda immonda! No, ma è forte la signora Merlino che dice, beh, allora! È fortissimo. Il simbolo della violenza contro la civiltà italiana, che è l'orrenda architettura del padiglione Italia, che rimarrà perché è struttura stabile, che è brutto come la morte e costa 92 milioni di euro. Altro che puoi parlare di 80 euro e le pensioni, tu butti i soldi in una merda immonda che fa schifo dal punto di vista architettonico e la mantieni in piedi. Diciamo che una merda immonda. Ma non, so, non mi pa, non lo so, vai, lo so. Beh, cioè, me, ognuno può avere il suo giudizio, sì, estetico, però, no? Sì, è vero, però quando Sgarbi parla di queste cose c'ha sempre ragione lui, dai. Quando, no, ho capito, quando parla di queste cose ha sempre ragione lui. Ma prova lui, a chiamare lo Sgarbi e digli cosa pensi dell'Ara Pacis. No, lo so, sbrocca. No, sì, ma prova per curiosità, Paolo da Udine che lo chiama, dice l'Ara Pacis è meravigliosa. Ma ha ragione, adesso qualcuno mi sta chiamando, sicuramente lui, vedrai. Cioè mi sta squillando il telefonino, sicuramente Udine. Paolo da Udine, devi dire io adoro l'Ara Pacis. L'Ara Pacis è bellissimo. Senti Paolo contro Udine. Gasparri, senti contro Gasparri. Ma chi contro Gasparri? Sempre Sgarbi. Ah, mi benissimo. Travaglio cosa dice? Non dovevano dare nel giornale il fatto che quello di Gasparri il padiglione no, a uno bravo come Farinetti perché doveva fare una gara. Tu vuoi far vedere cos'è la bellezza italiana? Chiami la Ferrari e deve fare la gara con chi? Con la 500? Ma che cazzo dici? Gasparri, su. Sei un morto, sei un morto. La politica non può essere questa. Sei come Travaglio, uguale. Uguale a Travaglio. Farinetti ha fatto l'unica cosa saggia. Vittorio. E la vedrai, e la capirai. Aspetto che Vittorio abbia avuto i buoni pasto da Farinetti. Ma che buoni pasto, vaffanculo, tu i buoni pasto. Me ne sbatti il coglione dei buoni pasto. Questo mi era sfuggito. No, ma questa siamo al top dell'assoluto. Perché qui che succede? Che siccome Sgarbi difende Farinetti a spada tratta, il signor Gasparri cosa sospetta? Che dietro ci sia una dazione di denaro di Farinetti a Sgarbi. Però siccome non lo vuole dire così esplicitamente, no, te paga, te dai i soldi, allora dice, beh, ti darà dei buoni pasto, no? Sì, come fosse un mendicante, dai. Ragazzi, noi ridiamo oggi per il G8 a Genova, cioè credo 14 anni dopo. Sì, che vergogna. 14 anni dopo, 14 anni dopo, dunque non può essere credibile questa cosa. Comunque esiste una sentenza della Corte di Strasburgo che riguarda un caso, diciamo, comunque in cui si sostiene che alla famosa scuola Diaz ci fu il reato di tortura, cioè fu commessa tortura nei confronti di una persona oggi super intervistata dicendo io ancora ricordo 14 anni fa, 15 anni fa, il pestaggio, le frasi, la polizia, eccetera, eccetera. Poi oggi parlano tutti, Parla anche il padre di Carlo Giuliani, che dice sono soddisfatto però ho rabbia. Sentiamo una frase del padre di Giuliani. Perché si parla della Dia se interviene il padre di Giuliani? Beh, vabbè, è il simbolo di una di quelle cose, di quei giorni, insomma, dai. Simbolo negativo. il padre che c'entra? Gli è morto il figlio? No, figlio, dico, non è il simbolo positivo, il signor Carlo Giuliani. È morto perché è morto, ma non è un simbolo positivo. No, cioè, ma non è il simbolo, gli è morto un figlio. Ho capito, punto. Ma non è che se muore uno che se muore uno che assale una camionetta dei carabinieri, non è un simbolo. Si potrà dire che non è un simbolo positivo o no? Si può dire che quello no, si può dire che non è un simbolo positivo, oppure si cade nel reato di per me non è un simbolo positivo uno col passamontagna che con l'estintore ma in mano che attacca la camionetta. Questo, però no, molti del lo sostengono, padre, no? Come no? Parliamo del padre che ha visto dai telegiornali la morte del figlio, io li ricordo quei giorni. E sentiamo il padre. Avanti. Io poi non posso non avere un po' di rabbia per il fatto appunto che invece la stessa Corte Europea respinse il nostro ricorso, o meglio, la prima Corte, quella più piccola, diciamo così, che esaminò il nostro ricorso, ci aveva dato ragione, aveva riconosciuto una responsabilità dello Stato nell'omicidio di Carlo. La Grande Chambre invece ci negò il diritto di avere almeno un po' di verità. Abbiamo, ma lo sai chi era a Genova in quei giorni, caro David? Guarda, era, in quei giorni lì, se mi ricordo, c'era un sacco c'era di Fini, gente. C'era un sacco c'era di gente. Fini, me lo ricordo. Sai chi c'era anche? C'era anche Gianluca Bonanno. No. Era a Genova. Ma sì, era. Come mai si trova sempre nei posti sbagliati? Come Gianluca! Mai? Ciao! Come mai eri a Genova? Perché ero andato a dare la mia solidarietà alle forze dell'ordine dopo tutto quello che era successo. Ah, figurati. Ma e che è successo? Sono andato con un cartello. Sì. Ma ero andato proprio nel centro di Genova. Sono andato con un cartello nascosto sotto un giubbotto. E poi sono andato dove, diciamo così, c'era un po' il clou della situazione. Ho tirato fuori il cartello. Sì. Dall'altra parte c'erano ovviamente quelli che erano lì solo per sfasciare, spaccare, fare tutto quello che dovevano. C'erano le forze dell'ordine e allora ma da una t'hanno parte mandato via poi a un certo punto. No, mi hanno chiesto cortesemente di togliere il cartello perché insomma diventava tutto molto pericoloso. Cioè, è un circo ambulante. Io volevo solo testimoniare il fatto ovunque che c'è casino va dalla loro parte. È un circo ambulante. 800 24 00 24. Avete un circo là da organizzare? Chiamate la Zanzara, arriva Bonanno. Ma è un circo. No. 800 24 00 24. Sono andato con la scorta qualcosa, sono andato là con il mio cartello che davo solidarietà alle forze dell'ordine. Ma che c'era scritto? Devo organizzare la festa come di mia figlia, adesso. Vieni a fare il rinoceronte per cortesia. Ma adesso tu sei dalla parte delle forze dell'ordine contro questa decisione di Strasburgo, immagino. Ma ci mancherebbe, ma scusate, ma tutta quella gente è andata lì a sfasciare una città, sì, a farne sì di tutti i colori, ma hanno fatto bene le forze dell'ordine, ma cosa dovevano fare? Hanno fatto cioè, bene, tu dici, alla Diaz anche sono stati commessi dei crimini, anche la scuola Diaz, aspetta, hanno fatto anche aspetta crimini, niente. Ma che crimini? Ma è dimostrato ma dalle sentenze, salame. Se vanno a occupare cose che non devono occupare, se vanno lì facendo irruzione senza avere alcun permesso, quella gente lì era fuori posto, punto. Cioè tu dici che alla fine la polizia avrà dato qualche legnatina qua e là, tu dici, no? Però certo, certo, sì, e bisogna anche vedere che cosa hanno fatto loro. Dopodiché se uno entra in un posto che non deve entrare, ma è una spedizione punitiva. È giusto che la polizia intervenga. Sì. È tutto quello che hanno sfasciato, chi è che ha pagato? Cioè tu dici per mandare via quelli là dalla scuola hanno fatto bene, dici, no, alla fine? Io sì, dico che la polizia ha fatto quello che doveva fare. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intent. Allora, tutti oggi ad indignarsi per la sentenza sulla Diaz, ci fu la tortura, no? Noi qui abbiamo una persona che dice no, non c'è nulla di cui indignarsi perché la polizia ha fatto bene e si chiama una Gianluca persona. Bonanno, perché è una persona, che cos'è? Non è una persona. Ah, non è una persona. Ah, una persona. Cioè, siamo all'avanti spettacolo. Ma siamo all'avanti spettacolo. Ma non ho capito, non ho capito perché uno non può dire. Ora, la Corte di non è uno, è la Corte di Strasburgo. Uno può dire me ne fotto condanna della Corte di Strasburgo dopo 15 anni, sì, o no? Ma la notizia è che la Corte di Strasburgo condanna l'Italia. Ora la Corte di Strasburgo va bene parla bene di Berlusconi, mi va bene sempre la Corte di Strasburgo perché penso che sia un organo veramente super partes. Arriva un cincinna, un pirlotto qualunque, già sindaco di Varallo Sesia, dove tra l'altro violentano i cassonetti perché c'è un signore che ha violentato questo un cassonetto tanti anni nelle fa, dai, tanti anni fa. Questo avviene in quel paese governato da Bonanno. Arriva lui che Borgocese ovunque c'è casino va a fare. Ma questo 15 anni fa, dai. Adesso mi stanno anche telefonando. Un attimo, sì? No, io non ho... organizzare una festa con buon anno. Le mandiamo il numero, non si preoccupi. È disposto a tutto, anche a vestirsi da suora. Adesso 800. Sì, per prenotare le feste con buon anno. Siamo in overbooking questa settimana, chiedo scusa. Siamo a Bruxelles, c'è il circo lì, chiedo scusa. Arrivederci, grazie, ritorni dopo. Mi fai ridere. Sì, però infatti, scusa, adesso, ho visto il silenziatore perché mi chiamano, scusa, in continuazione. Scusa Gianluca, però la cosa, sì, è questa, tu dici sostanzialmente, questi qua che erano alla Diaz occupavano abusivamente un luogo, no? Sì. Dunque la polizia ha fatto benissimo. E come anche perché non si sapeva cosa facessero lì dentro. Allora, con tutto quello che è successo, ma ce le ricordiamo cosa è successo? Cioè Genova sembrava con quelle reti, con tutto bloccato, cioè, hanno sfasciato di tutto e di più. E chi è passato dalla parte del torto? Le forze dell'ordine. Ma, cioè tu dici che qualche botta è giustificata per sgomberare, dici? Qualche? No? Ma io ne avrei tirate anche di più, altro che qualche. Ma come fa uno che... Allora, se uno ha ragione, va in maniera pacifica, sì, e fa le sue rimostranze, sì, ma non, sì, sfascia tutto, brucia auto, dà fuoco a distributori di benzina, sfascia le vetrine. Per cui poi per pizzicare i responsabili è giustificato entrare dentro una scuola, tu dici dove stanno. Cosa fanno? C'hanno magari una bomba, che ne sai tu che cosa hanno? Ma era previsto, è un luogo adibito ad ospitare, sì, i manifestanti, quello. Sì, bravo, adibito chi? Ma chi c'era dentro? La Diaz. Ah sì, certo, e chi c'era dentro? Ma scusami, guarda, il tentore del circo, portalo da un'altra Carlo, parte. Carlo Giuliani, come lo consideri tu, un criminale? No, allora, io dico che se il carabiniere che poi ha avuto tutto il grane che ha avuto, sì, ma io mi chiedo, uno sinceramente, fosse stato al posto del carabiniere, ma non avrebbe usato la pistola? Sfortunatamente purtroppo è morto, e dico anch'io purtroppo è morto quel ragazzo, ma quel ragazzo se l'è andato a cercare, perché col passamontagna e con l'estintore che la sta per tirare in testa, sì, a un carabiniere, ma secondo voi è una cosa normale? Dunque tu dici che è giustificato sparare un colpo di pistola, dice, a un certo punto. Ma ci mancherebbe, ma secondo me sì, è legittima difesa. Dunque, siccome io non so se ci sia ancora un'aula alla Camera dedicata. Certo, non è un'aula, è una sala. Una sala. Cioè, qui abbiamo una sala. Dedicata la sala a uno che con il passamontagna e l'estintore lo stava per spaccare in testa un carabiniere. Ecco, allora qui siamo alla demenza della democrazia, secondo me. Perché comunque chi di noi, tutti quegli ascoltatori che ci sono, c'è uno, lasciamo stare che può. Cioè, mi dispiace che sia morto, ma una persona col passamontagna sta per tirarti un estintore in testa, tu hai una pistola e sei delle forze dell'ordine, cosa fai? Beh, uno potrebbe anche, diciamo, usare quella pistola in un altro modo, in teoria sparare, no, in aria, che ne so. Certamente non è che gli ha sparato per ammazzarlo, immagino. Ha sparato per difendere e colpirlo da qualche altra però, parte. Se tu come lo definisci, Carlo Giuliani? Non è un esempio da seguire, diciamo, no? Non è un modello. No, è tutt'altro. Poi però, siccome siamo in Italia, se una persona muore, come quando muore nei paesi, nei comuni, nelle città, anche il più disgraziato dei disgraziati muore e diventa bravo di colpo. Poverino, sì, dispiace, ma sì, in fondo era un bravo ragazzo, dico in generale. Sì, questo, sì, Giuliani, sì, io non lo conoscevo, ma uno che si mette così, che è sopra una camionetta e, sì, che fa quello che fa... Ma secondo me, ma non se l'è andata a cercare? Peggio per lui. Allora, però sai che dopo diventa eroe. Allora diventa eroe una persona, e ripeto, mi dispiace. Vabbè, certo, vabbè. Una persona che muore è comunque un dispiacere in generale. Però uno che fa così non può passare per eroe. Senti, Parenzo, ma sai che oggi è stato presentato, oggi in questi giorni, un disegno di legge? Scusami. Sì, dimmi, sì? Che c'è. Guardi, fino a maggio siamo presi col Circo Buonanno. Chiedo scusa. Sentiamoci dopo maggio. Booking, grazie. No, volevano il cerchio di fuoco, scusami. Prego, andiamo avanti. Scusa. Volevano il cerchio di fuoco, lo volevano. Parenzo, sai cosa mi dicono in giro sempre? Ma guarda che te lo dico davvero, è la verità. Che dicono? Senti, ma quando vai lì alla Zanzarano, ma quel Parenzo, ma quando lo vedi a tu per tu, non puoi sputargli in faccia? E dico, no, perché non merita neanche. Certo. Una cosa del genere. Non merita nemmeno di essere, sì, sputato in faccia. No, sì, Circo, no. Buonanno, buonasera. Fino a maggio ho detto chiusi. No, abbiamo uno slot a giugno se vuole. Sì, possiamo venire anche a Mosca, certo. Qualunque però, puttanata. Grazie, no, comunque, grazie, arrivederci. Scusami, ma perché non legalizzi? Scusa, adesso vanno di moda quelli che dicono bisogna legalizzare la prostituzione, però non si farà più io nulla. Io sono favorevole. Tu sei favorevole, ma inventati qualcosa là a Borgo Seisa dove sei sindaco, no? Guarda, ti dico, oggi Renzi ha fatto la sua ennesima conferenza stampa dicendo che lui non aumenta le tasse, cioè secondo me Renzi in mezzo alle conferenze stampa si fa una canna, perché ogni volta spara delle cazzate inenarrabili. Siccome faccio il sindaco come agli altri 8.103 comuni d'Italia, e so benissimo che Renzi piglia per il culo dicendo queste cose, a questo punto, per davvero diminuire un pochino le tasse, perché non le tira via Roma, che poi in realtà ha aumentato il Vabbè, insomma, che faresti tu? Dei conti correnti e dei fondi pensione, eccetera, eccetera. Vabbè, ma che faresti? Ha messo la tasi. Lasciassi libero i comuni di fare i casini veri, allora a quel punto ci sarebbero degli introiti che permetterebbero ai comuni stessi, da una parte, di tirar via la monnezza, tra virgolette, che c'è nel vedere certe persone, e poi ci sarebbe la sicurezza sanitaria, gli introiti pagherebbero le tasse e tutti sarebbero più felici e contenti. Cioè, no, perché non lo fai? Scusa, lo farei. Ma che invece di fare i registri, ad esempio, il nostro Draghi è questo. Invece di fare i registri sui matrimoni gay, eccetera, che alla fine sono inutili questi registri, abbiamo visto che poi sono stati cassati, ci fosse la possibilità, io lo farei pure. Il registro delle prostitute, prostituta, apro il registro, chi sia prostituta, cioè una donna, o che sia prostituto, tra virgolette, l'uomo, venga, io faccio il registro Borgo Sesia e da quel momento paga le tasse. Ma fai questa grande iniziativa, Borgo Sesia è un registro per prostitute e prostituti, no? Si mettessero in regola, a quel punto pagano le tasse. Non vediamo. Sì, ma fallo a prescindere dalla legge, lo devi fare, lo devi fare, rompere la legge, rompere le usanze, rivoluzione a Borgo Sesia, registro per prostitute e prostituti, e poi pagano le tasse al comune, ma sarebbe il top assoluto. Avresti magari, ovviamente non per strada la prostituzione, No, assolutamente. Vabbè, ne riparleremo. Grazie. Adatti. Ciao, grazie. Ciao. Salutami Parenzo, sto tirando l'acqua, non lo vedo più. Non sai nemmeno più che cos'è un maschio, siete arrivati a sto punto. Non ho capito. Nemmeno questo sapete ormai. Siete arrivati a questo punto di confusione mentale. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. Roberta, Siracusa, vai. Sì, salve, buonasera. Dimmi. Io volevo semplicemente porle una domanda riguardo alla questione degli animalisti, degli animali che ha trattato nei giorni scorsi. Volevo sapere intanto se lei ha mai vissuto con un animale e perché secondo lei gli animali non hanno la stessa dignità degli uomini? Ma io non ho detto che non hanno la stessa dignità. Attenzione, non ho mai detto quello che sostengono questi signori online, il Partito Animalista Europeo, il sedicente Partito Animalista Europeo e altri signori ancora che scrivono su Twitter, su Facebook e mi minacciano di morte. Non ho mai detto che non hanno dignità. Ho detto, e continuo a ribadirlo, non ho mai detto che bisogna ammazzarli, che godono in vedere uccidere un animale. Mai detto le stronzate che vanno diffondendo su tutti i social network questi signori. Non ho mai sostenuto una cosa di questo tipo, perché non sono un sadico pazzo, chiaro, che vuole la morte degli animali. Dico che tra l'uomo e l'animale c'è una grande differenza, una enorme differenza, e che siccome... E qual è? Ma come qual è? Ma che vuol dire come qual è? Come qual è? Io e lei stiamo parlando, stiamo intrattenendo una conversazione, sì o no? Sì. Ah, benissimo. Lei può intrattenere la stessa conversazione con un animale, con il suo gatto, con il suo cane? Mi dica la verità. Può intrattenere lo stesso tipo di conversazione? Gli animali hanno i loro modi di esprimersi, non sono Sì, certo, hanno i loro modi di esprimersi, non c'è dubbio. Ma lei può intrattenere una conversazione con il suo cane o con il suo gatto, signora Roberta? Sì o no? Mi risponda. No, però meno male. No, perché ci sono dei rapporti affettivi, nel senso. Ma certo, ma non c'è dubbio che lei possa possa avere affetto, ma lei può intrattenere una conversazione? Perché no, ci sono delle persone che magari dicono sì, io intrattengo una conversazione con il mio cane. Fino a quel punto no, ecco. E allora, ma c'è una differenza o no? Ma mi pare una cosa fuori dal mondo, sì, perché se continuano? La poniamo, se la poniamo su questo piano, ovvio. Ma no, ma c'è una differenza, cioè è però giustificato il fatto che si ammazzano? Non mangerebbe il suo cane o il suo gatto se ha mai vissuto con un no, cane? No, ma non ha capito ancora. È giustificato il fatto che si ammazzano degli animali per mangiare e per campare? È una cosa giustificata? Poi se uno vuole vivere, ho visto molti video in questi 3-4 giorni, ho letto molte testimonianze, se uno vuole vivere senza ammazzare un cane o un gatto, no, un cane o un gatto, ovviamente cane, sì, insomma un animale, eccetera, eccetera. Se uno vuole vivere senza ammazzare gli animali, ma va benissimo. Importante che non ci rompano i coglioni a noi, che invece vogliamo mangiare la carne e continuare a mangiare la carne. Poi uno dice muori di cancro mangiando la carne, e muori di cancro. E cosa vuoi da me? Cioè, non capisco perché c'è l'imposizione e c'è il fatto di considerarti. È condivisibile. No, ma non solo questo, c'è il fatto che ti considerano un pazzo, cioè ti considerano un assassino. Ti guardano strano, ma io sono io che guardo strano loro. Sono un estremista, io alla fine come lei mangio carne e tutto, solo che ho sempre vissuto con degli animali, e sostenere che non abbiano comunque lo stesso tipo di... No, non hanno lo stesso tipo di dignità, no, non hanno la stessa dignità, mi dispiace, non è così, non è uguale, non è la stessa cosa, non c'è la stessa tutela, ma è evidente che non c'è la stessa tutela e non ci può essere. Adesso c'è quasi la stessa tutela. Ma io, guardi, io non ho mai dato un calcio a un animale, un cane o un gatto, a nessun animale, mai. Mi fa orrore una cosa di questo, mi fa schifo chi dà un calcio a un animale o chi tratta male un animale. Ma non è che si può trattare allo stesso modo, come dire, un maltrattamento dell'animale e un maltrattamento dell'uomo. Non è la stessa cosa. Cioè, non è la stessa. Anche legalmente ci si sta arrivando. Ma, però. Non, ma non è, comunque non è la stessa cosa. Cioè, no, non è la stessa cosa, però ci arriveremo. Ma vogliamo dire che l'uomo è diverso da un animale o no? Vogliamo dire che l'uomo ha più dignità rispetto a un animale o no? Cioè, lo vogliamo dire? Se, punti di vista, uscendo da fuori dall'ipocrisia o no? Giorgio. Grazie, Roberta. Giorgio da Roma, vai. Sì, buonasera, Cruciani. Dimmi. Confessione terribile, ho mangiato l'agnello, sì, e volevo raccontarvi i particolari. Sì. Quindi ho preso una spalla d'agnello, l'ho addirittura dissossata con grondante di sangue. Un reato gravissimo ha commesso e lei. E poi l'ho messa a marinare, ancora cruda, e poi l'ho cotta sulla pietra ollare e alla fine me la sono mangiata, terribile, era buonissima naturalmente. Queste ciance intorno all'animalismo, l'agnello, sono delle stronzate terrificanti. Non, se qualcuno sta male, continui a stare male. Insomma, io ho mangiato l'agnello con grande piacere, avendo fatto anche queste cose col coltello, col sangue. Non mi sento affatto male, anzi, direi benissimo. Ciao Giorgio, grazie. Mauro, provincia di Milano, vai, Mauro. Sì, buongiorno. Dimmi, dimmi, vai. Ma io volevo tornare discorso del G8 14 anni fa. Sì, sì. Il suo diritto di ridicolizzare Bonanno, certo, è relativo. Ma quel signore lì ha fatto il militare. Ma chi dice? Ha dato o ha assolutamente no. Da gente graduata, da sottufficiali. No, ha fatto il militare. Assolutamente allora, no. Assolutamente non deve neanche parlare, perché un ordine, e quando ti trovi uno davanti che ma ti quale minaccia, ordine? Quel signore povero carabiniere. Ma di che ordine parla? Ordini, ma di quale ordine parla? Ma adesso non torniamo sulla dinamica di quell'incidente, di quel drammatico giornata. Ma che vuoi dire? Non ho capito, Mauro, ma che vuoi dire? Non ho capito. Volevo dire che quel carabiniere non aveva l'intenzione di ammazzarlo. Ma quale? Quale carabiniere? Quello che ha ucciso Giuliani. Quello che ha ucciso Giuliani, vabbè. Stiamo riparando dalla vicenda Giuliani. Aveva l'intenzione di difendere. Vabbè, ma roba vecchia, a me mi dà fastidio roba vecchia, se non torniamo sulle dinamiche chi se ne frega. A me dà fastidio chi considera quella roba lì una roba normale. Cioè, mi dà fastidio chi considera, per carità, è morta una persona, eccetera. Ma il tema non è questo qua per oggi. Cioè, la notizia, quella è vecchia ormai, chiuso, archiviato. La notizia di oggi è un'altra, che può piacere o non piacere al circo di Bonanno. La Corte di Strasburgo, uno può dire chi se ne frega, ha fatto un rilievo preciso rispetto all'assalto alla Villa Diaz. Questo non c'entra niente adesso, Giuliani. Ma siccome parla anche il padre di Giuliani, allora uno torna pure su quella vicenda, no? Per forza, perché è parte lesa di tutta la vicenda. Beh, no, non della Diaz, non c'entra nulla, amico mio. No, ma comunque è uno dei protagonisti della storia, insomma. Dice a me, allora. No, allora, dunque, è tornato su quella roba là, dunque. Vabbè, dai, forza. headlines, news channel 3. E adesso i titoli del TG3. L'irruzione della polizia nella scuola Diaz durante il G8 di Genova fu tortura. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia anche per la mancanza di legislazione. Via libera del governo al documento di economia e finanza. Renzi, nessun taglio, ma bisogna risparmiare. Si punta sulla crescita, meno tasse per 20 miliardi. Padoan con la ripresa, scenderanno deficit e debito. Rispetteremo le regole, non scatterà la ghigliottina dei tagli. Risorse anche dalle privatizzazioni. La sfida di Forza Italia, Fitto con le appurazioni del no alle competizioni tra i candidati, vertici ci portano al suicidio, lo scontro tra giovani e vecchia guardia. Orrore ISIS, i corpi di 1700 soldati iracheni nelle fosse comuni di Tikrit, allarme UNICEF nel campo palestinese di Damasco, una nuova Srebrenica. Gli studenti invadono Nairobi contro il terrorismo, musulmani e cristiani uniti contro gli Shabab, ma critiche anche al governo keniano. Roma, vai Anna. Dimmi. Allora, questa condanna da parte della Corte di Strasburgo per sì. l'Italia, che per i fatti di Genova, sì. è una cosa decisamente per me allucinante. Perché? Ma voglio dire, qui c'è stata una città messa a ferro e a fuoco. Sì, però va scusi, bene? In realtà qui si sta esaminando un'altra cosa, cioè l'irruzione della polizia dentro una scuola, punto, cioè, che potrebbe anche prescindere da quello che è successo. Diciamo. Ma no, non prescinde, perché questi, voglio dire, come fa a prescindere? Vabbè, tanto qui ci si dividerà sempre tra persone che pensano che quelle giornate lì, come tra queste ci sono io, furono, come dire, provocate da un gruppo di pazzi che volevano mettere a ferro a fuoco una città, e dunque la reazione della polizia, ovviamente ci sono stati degli eccessi, fu una reazione di difesa, e quelli che pensano invece che ci fu tutto un complotto da parte della polizia per scatenare incidenti, eccetera, eccetera. Ma che complotto, voglio dire. Ma io no, non ho capito, ma in Italia quando c'è un reato, possibile che si deve sempre perseguire? Ma qual è il reato, scusami? Ma il reato è quello di aver messo a fuoco una città, hanno sfasciato tutto, voglio dire. Ho capito, ma questa è una parte della storia. Poi ci sono gli altri reati contestati ai poliziotti. Vabbè, questa è una parte della storia. Poi c'è l'altra, che non esclude la prima, cioè che questi hanno messo a ferro e fuoco la città. Ma la seconda parte della storia, quello di cui oggi si parla, è del blitz organizzato alla Diaz dai poliziotti. Questo è il dunque, secondo lei i poliziotti fanno il loro lavoro, cioè esagerano i poliziotti, però, voglio dire, ma quelli che hanno fatto l'assalto alla Diaz. Quando uno fa un reato, voglio dire, ci sta la polizia che dovrebbe intervenire. A quel punto la polizia è quella criminalizzata. No, però, Anna, io capisco. Ma non c'è da capire, sbagli, non c'è da capire niente. Io capisco che la signora dice, possibile mai che i poliziotti che sono magari intervenuti per scovare delle persone pericolose, eccetera, eccetera, per reprimere dei reati, per prevenire, eccetera, eccetera, siano poi finite sul banco degli imputati, però questa fa parte della storia del G8, sicuramente furono commessi degli eccessi. Adesso addirittura si dice delle torture nei confronti di una persona. No, questo dice, è il punto. Lo dice la Corte di Strasburgo, non è lo Spirito Santo, o figurati, è la Corte di Strasburgo, però condanna l'Italia per quello che i poliziotti hanno fatto alla Diaz, che non c'entra nulla col fatto Anna? I reati contro la città di Genova come verranno puniti? Ma non c'entra niente, ancora, sono due temi diversi. C'è anche quello, chi ha sfasciato la città deve pagare, ma ancora costa, ma chi se ne fa, ho capito, ancora costa storia. No, in parte hanno anche pagato, Appunto. Senti che scrivono su di me, Parenzo. Tutti sappiamo, questi sono vegani, animalisti, tutti estremisti, non dico che sono tutti così, ovviamente non sono tutti così. Tutti sappiamo che in fondo lavora per Confindustria, quindi possiamo immaginare quanto gliene frega degli animali, incassa i soldi proprio da quelli che controllano il settore industriale dell'agroalimentare, per cui magari vuole solo un aumento di stipendio e una laccata non guasta mai a tal fine, una leccata in realtà, forse voleva scrivere questo tizio. sono, c'è un sito che si chiama Vivi Vegan. Per quello che mi riguarda, la carne è la peggiore cosa che un essere umano possa mettere dentro le sue viscere, ma ovviamente questo va contro le lobby che pagano Cruciani e quelli come lui. Personalmente posso dire che non foraggio più Confindustria, né pago gli stipendi di questi personaggi. Sono anni che la monnezza alimentare che producono la lascio tutta a loro, compresi carne e derivati. E non è tutto, avendo risolto anche alcuni problemini di salute, anche il settore farmaceutico di Confindustria l'ho mandato a quel paese. Cruciani è l'esempio di come i soldi comprano tutto. Di conseguenza c'è sempre qualcuno che prostituendosi si vende. Beh sì, questo sì, questo è vero. Ma questi sono veramente convinti che il vegano è l'uomo più evoluto. Il vegano è spinto alla conservazione della specie ma con modalità differenti. Egli si riproduce, protegge i nati e l'ambiente, inoltre si nutre mediante una procacciazione di cibo più rispettosa e consapevole. È l'uomo più evoluto. Cioè, al loro confronto siamo tutti degli stronzi inconsapevoli, questa è la realtà. Davanti a un vegano siamo tutti dei poveri stronzi. Non mi stupisco invece che a Taranto si siano scoperte cose turpi nella diocesi di Taranto. Orge, sesso a pagamento, anche in canonica. Non c'entra nulla, però. Non capivo. Non c'entra nulla. Orge, sesso a pagamento, anche in canonica. Tutto accertato perché hanno cacciato un prete, l'hanno fatto andare via da Taranto, eh. Microfoni aperti, 800 24 00 24. Francesco da Roma, vai. Francesco, vai. Francesco. Sì, sono io. Dai, parla, su, sì, amico mio. Io mi chiamo Federico e telefono da Modena, cioè famo te. Comunque, volevo dire e partecipare alla conversazione sottolineando che buon anno. Dal mio punto di vista, come si dice da mia parte, è un ciocapiatti. Cioè, è una persona. No, non ho capito, parte... scusa, stiamo calmissimi, eccetera. Lei chiama siamo innanzitutto calmi. Da dove? Da Modena. Io qua davanti ho una serie di città elencate: Latina, provincia di Trento, Roma, Genova, provincia di Roma. Di Modena non c'è il popolo, non minima traccia. Comunque, vabbè, lasciamo perdere poco male. Comunque, allora. Okay. Poi? No, non l'ho scritto io quello che no, no, lei non c'entra comunque. Niente, perché da. Dunque, lei chiama da nella provincia di Modena. E cosa ci vuole dire di grazia? No, io prima in macchina sentivo quando parlava buon anno di quella, sì, appunto del, di quello che secondo lui era giusto, che poi era accaduto, che doveva, secondo me, cioè quella era dimostrazione come molti di questi politici si comportano da ciocapiatti, come si dice dalle mie parti. E non ho capito questo termine, si comportano da? Da ciocapiatti, uno che fa rumori con i piatti. Ah, fa rumori con i piatti. Una persona che chiama l'attenzione con poco. Sì. Mettiamoli in questi termini qua. Va bene, Fabrizio da Genova. Vuole dire qualcos'altro oltre a... No, sono già posto così, grazie. Fabrizio da Genova. Bah. Pronto, buonasera. Ma buon anno ancora lì? No, buon anno no, se n'è andato. Per fortuna no. Ah, perché io ho preso la macchina, posso per venire a dare due schiaffi, va bene che non c'ho il GPS. Sono arrivato adesso a Milano. No, a Fabrizio, scusa, abbi pazienza. Era collegato per telefono. Comunque stasera sta... No, hai detto che ce l'avevi in radio, hai detto. Sì, in radio è collegato, però non era qui là. Comunque stasera sarà ospite dal professor Del Debbio, alla trasmissione, alle 20:30. Se vuole andare a Colonia Monzese, sì, lo trova là davanti. No, sarà a Roma, Ma sono senza GPS, non vedo che qua mi perdo nella metropoli. Ho capito, Fabrizio, metta Colonia Monzese, Mediaset, Viale Europa. Poi vedrai i tendoni del circo, verrà fuori Caravan, quindi del circo, perché lui si muove sempre con gli elefanti. Quindi lo noterà. Comunque posso dire una cosa, Giuseppe? Dimmi, Fabrizio, dimmi. Senti, la cosa è questa, non è, come dire, a 14 anni di distanza dal G8, no? Io, quanto sì, genovese, c'ero lì, avevo 20 anni ai tempi. Non è vero che il discorso che si divide solo in due, o i complottisti o quelli che invece, come dire... Vabbè, ci sono quelli che saranno sempre convinti che le forze dell'ordine sono il giusto, che in fin dei conti erano una banda di violenti, e poi sì, qualche eccesso ci sarà stato, però poi più importante la devastazione della città, eccetera, eccetera. Altri invece che dicono che la polizia deliberatamente, da mesi prima, ha preparato il massacro di innocenti che erano lì solamente per manifestare. No, io posso dire queste due scuole cosa di pensiero non moriranno mai, è inutile che ce la stiamo a menare. È chiaro che sì, è così. Però Giuseppe, ma perché nessuno dice dice Mike il giorno in cui è morto Carlo Giuliani, ok, la manifestazione era autorizzata e una comandetta di carabinieri l'ha attaccata. Perché non lo dicono sta cosa? Sì, ma ragazzi, ma nessuno dice nulla. Io, volete sapere come la penso? Io me ne frego ormai, sono passati 14 anni e me ne fotto totalmente. Purtroppo oggi ne parliamo perché c'è questa cosa della tortura, ma io me ne fotto di quello ormai, a 15 anni di distanza me ne frego, anche della sentenza di Strasburgo. E io credo che con me ci siano il 99% degli italiani che se sbagliano, ne strasbattono ormai di quello che è successo. È passato troppo tempo. Vabbè, ma chi c'è? L'unica cosa attuale è che Strasburgo dice non avete il reato di tortura, e invece è dimostrato che l'unica cosa è questa qui, che quella che è avvenuta alla Diaz è stata una tortura. Vabbè. Nei confronti di una persona, perché c'è stata il caso, c'è è stato portato la denunzia, sì, come di uno, direbbe qualcuno, di un signore che ha 60 anni che è stato menato, ha perso un braccio, e nei confronti di questo tizio è stato provato che c'è stata tortura. Esattamente. Benissimo, da Strasburgo. No, benissimo, niente. Ma ho capito, bene. E ci voleva Strasburgo, archiviamo. La cosa scandalosa, mi potrei dire, rispetto ad altri paesi, è che l'allora capo della polizia, il signor De Genesso, sì, qualcuno si incazzerà con me, ma anch'io penso che questa cosa qua sia uno scandalo, sì, perché quando alcune sentenze sono riconosciute, esatto, io le riconosco, ed è uno scandalo che l'attuale capo, presidente di Finmeccanica, sia lo stesso che era il capo della polizia all'epoca. Questo dubbio. Trovo che sia uno scandalo assoluto. Adesso sicuramente qualcuno si incazzerà anche qui, ma non me ne frega niente. Penso che se è stato provato che la polizia aveva grosse responsabilità, anche certo, se il capo della polizia, che anche oggi ha questo posto così importante, penso che questa cosa qua sia uno scandalo. Lorenzo, provincia di Roma, vai. Ciao Cruciani. Vai, dimmi. Senti, io volevo intervenire. Io da tanto che sento Parenzo, sì, che parla sempre. Poveracci Zinker, bisogna aiutarli. Sì, bisogna, domani tra l'altro è la giornata Rom, poi racconterò tutto, che domani è una giornata molto importante. Ah, molto bene. Vabbè, sì, dai, domani allora è la giornata dell'orgoglio Rom. E chi sì se ne frega? Ah, beh, sì, che goduria. Vedrai cosa organizzo per domani. Vedrai. Vabbè, dai, Lorenzo. Allora te. E poi che ti interessa? Ma ti pare possibile che può esistere la giornata dell'orgoglio? Vai, ma perché non facciamo tutto la giornata dell'orgoglio vegano? Facciamo la giornata dell'orgoglio vegano. Perché noi istituiamo la giornata. Spiegherò tutto domani in un minuto e 40 secondi. Ma no, domani tu puoi spiegare tutto quello che vuoi. Allora facciamo la giornata dell'orgoglio vegano. Perché non facciamo la giornata dell'orgoglio pedofilo? Domani, cioè, che ne so, domani, cioè la giornata dell'orgoglio. Ma per dire, no, no, questo, cioè, per dire niente, questo è grave. Ma no, ma non sto paragonando la giornata dell'orgoglio pedofilo. Domani prenderemo ai Rom. Sto dicendo provvedimenti serissimi. Sto dicendo che va bene tutto, no? Cioè, domani. Dai, forza, Lorenzo, dimmi. Luciani, lascialo perdere quello, per favore, dai. Quindi quello si interessa dei zingari, dei quello chi dei, quello ma quello è lei, quello, ma come si permette quel signore lì che sta lì con ma testo. Quello è lei è quello, vabbè, allora sei tu, esatto, vabbè, allora ok. Si interessa dei zingari, si interessa degli extracomunitari, lui e quell'altro della sette Santoro, che guadagnano un sacco di soldi, ma loro che stanno bene, perché non gli danno loro a mangiare a questa, ecco, gente? Perché non se li portano a casa? Perché non li non eccolo li che è arrivato. È arrivato, sei arrivato tu, allora eccolo qui, è arrivato. Tu sei un altro, tu sei un altro di quelli buoni, ecco, tutti bravi, siete bravissimi tutti a parlare. A casa vostra, qualcuno degli altri parlate, però eccolo non è qua che parlate. È arrivato anche oggi, è arrivato. Così, va benvenuto, bene. Benvenuto, ben arrivato. Ben arrivato, bentornato. Ben arrivato, ma con la stupidaggine delle 19:44. Benvenuto, tu, avanti, su. Tu ne dici tante di cose seconda, belle. Seconda, avanti. Tutte, ben arrivato, tu, buongiorno. Tu sei razzista contro gli italiani, sì. Tu sei il vero razzista. Eccolo qua, tu, la Boldrini. Razzista contro gli italiani. Avanti, avanti. Santoro, Luttazzi, Travaglio. Avanti, avanti. Che c'entra? La sinistra italiana ha rovinato l'Europa. No, il mondo ha rovinato, perché l'Europa siamo? Ecco un altro problema, no? Tutti. Il mondo, come fallo l'Europa parlare però. Massimiliano, provincia di Monza, dai Lorenzo, ciao. Sì, buonasera, volevo intervenire qua sugli animali, perché te Cruciani hai perfettamente ragione a dire che noi siamo diversi dagli animali, ma gli animali sono molto migliori rispetto all'uomo, per delle semplicissime ragioni. Lei, ti faccio una domanda, hai mai visto bombardare un ospedale di bambini da degli animali? ha mai visto sotterrare rifiuti tossici per poi coltivarci sopra i pomodori da vendere alla, alla gente dei dintorni? Ha mai visto un animale? Ma questo a maggior ragione dimostra, a maggior ragione, ha mai visto un animale far morire di fame uno della propria specie? No, ma questa roba qui a maggior ragione. A maggior ragione. 7 miliardi di persone, certo. L'uomo produce cibo per 10 miliardi di persone e 2 miliardi muoiono di fame. E mi venite a dire che l'uomo è superiore a un animale? No, amico mio, allora è evidente che quello che tu hai detto, cioè l'uomo uccide, l'animale uccide un po' di meno, anche se poi bisognerebbe vedere le cifre. Uccide per istinto di sopravvivenza l'animale. Sì, vabbè, d'accordo, ma insomma adesso non ci mettiamo a discutere di questa cosa qua nel dettaglio. Ma è evidente, ma questo dimostra che c'è, diciamo, dall'altra parte c'è il cervello e dall'altra parte c'è un essere. No, c'è un cervello molto andato male. Ah, l'uomo ha un cervello andato male, invece gli animali sono tutti buoni. Dai, su, ragazzi. Certo, certo, lei mi trovi un solo animale che ammazza per divertimento. Ma hanno gusto, aperto, me ne trovi uno. Ma perché hanno chiuso? Perché hanno chiuso? Me ne trovi uno. Adesso chiuderanno anche fra poco i, non so, gli OPG. No, gli ospedali OPG. Psichiatrici giudiziari. Purtroppo chiuderanno anche gli OPG. Questo non c'entra niente perché lei non è in galera, diciamo. Però hanno chiuso da tempo i manicomi, cioè hanno liberato le gabbie in questo caso. Ma come si fa a dire che gli uomini sono cattivi e gli animali invece sono buoni? Ma è un ragionamento ridicolo. Non è che gli uomini tutti sono cattivi. Gli uomini in gran parte sono più cattivi degli animali, perché gli animali hanno una cosa in più dell'uomo molto più grande, che è il cuore. Il cuore, cosa che gli uomini stanno per certo. Lei ha mai visto un animale? Ha mai visto un animale prima di essere macellato o prima di essere cacciato da un cacciatore per sfizio? Settimana scorsa sono uscito con un mio amico cacciatore che è andato in Francia a cacciare i cervi. Sì. Ha sparato a un cervo da distanza di 2 metri, sì, guardandolo negli occhi. Ma è pure amico tuo, scusa, è amico tuo. Sì, certo, perché io non sono estremista. Io ho amici. Cioè, tu sei così, tutti, pensi questa cosa e poi sei uscito con un mio amico. Sono uscito con un mio amico, sì, sono andato a caccia e questa ha sparato a un cervo. Vabbè, ho capito, però. Ha sparato un cervo, non ha avuto il coraggio di finirlo perché la guardato negli occhi e dagli occhi ha capito. Tu eri lì. E tu eri lì. No, me l'ha raccontato lui, me l'ha raccontato. Vabbè, tu lo un cacciatore non ha avuto il coraggio e ha detto: io non ammazzerò mai più un cervo. E io ovviamente ho detto: beh, se evitiamo di ammazzare anche tutti gli altri forse è meglio, per sfizio. Vabbè. Poi la troiata ed è ancora amico tuo questo qua? Certo che è ancora amico mio, perché io non sono estremista. Io sono andato a mangiare sabato, ho fatto una grigliata, mi sono mangiato il mio bel hamburger vegetariano di soia, i miei amici si sono mangiati la bistecchina, sì, contenti loro, contenti tutti. Io non sono estremista, però da qui a dire sì, che gli uomini sono nettamente superiori agli animali, hanno una dignità che guai, ma che dignità? Ma gli amici di Parenzo che bombardano un giorno sì un giorno no gli ospedali, stai dicendo che gli animali hanno una dignità superiore agli ebrei che vanno a bombardare gli israeliani. Sicuramente, perché quando uno bombarda un ospedale con dei bambini nessuno dentro, bombarda ospedali. No, nessuno bombarda ospedali. Sedi dove sono i terroristi, amico mio. I terroristi sì, certo. Si chiamano infatti, terroristi. Di bambini morti in perché Palestina. Perché i terroristi mettono le armi sotto gli ospedali. In Palestina, i nostri di, amici bambini morti, tu, di bambini morti in Palestina non li hanno fatti. Avanti, dai. Vabbè, si occupi di cervi che è meglio. Ciao. Ultima cosa. Quando uno mi dice che mangiare il cane è come mangiare un essere umano, mentre tutti gli animali, chi se ne fotte, questo dimostra esattamente. Ma che c'entra il cane? Non ho capito. Che no, c'entra... Parenzo che settimana scorsa diceva che mangiare il cane era come mangiare un umano, io mentre non ho gli altri. Sì, certo. No, sì, non era questo. L'affermazione era questa: mangiare un cane vero, era come mangiare un uomo. Beh, sì, mi farebbe quella impressione lì, certo. Mi farebbe quella. Invece gli altri chi se ne fotte? Perché il cane non si capisce perché il cane sia ho detto una. Il cane, perché nella nostra cultura, che non è quella cinese, evidentemente dove è stato preso. È una questione di cultura. Mi avete scocciato tutti e due. Mi avete scocciato tutti e due. Ciao. Mi hanno mandato su internet, Facebook, non so che cazzo era, un tizio che si chiama Erfaina, così facciamo incazzare ancora di più gli animalisti. Questo signore Erfaina, che pare che sia seguito, minimamente seguito su Facebook, se la piglia con gli animalisti, con i vegani, eccetera, eccetera. E sentiamo questo pezzo su chi ha inaugurato la causa animalista. Pare che si chiami Watson, ammetto la mia ignoranza. Ma poi mi sono andato a documentare che cazzo. Dico, fammi andare a vedere chi sono sti vegani. Senti, quando se lo sono inventati, nell'agosto del 44, certo Donald Watson pensava che fosse necessario formare un coordinamento di vegetariani non consumatori dei latticini. Io dico, stai a Londra nel 44, ci stanno dei tedeschi che ti stanno a bombardare e tu stai a pensare a formare un movimento che se mangia l'erba e noi i latticini. A Watson, ma che cazzo t'ha detto la capoccia? Ma le bombe ne hanno rincoglioni del cervello. C'ha ragione. Signore Faina, questo si chiama Erfaina. Ha ragione Faina. Allora andiamo con la Sgarbi Collection, alle 19.50, vai. Sgarbi Collection. Sgarbi Collection. Mi hanno mandato dall'archivio sgarbiano una puntata di Porta a Porta in cui imita Banna Marchi. Eccezionale, sentite. Ma non sono credibili, ma chi può credere a Banna Marchi? Ma nessuno si può Vittorio. Credere. Sono caricature. Uno. Hai ragione. Ma che roba è? Sono caricature. Sono le più grandi caricature della storia. Scusami. Non sono te. Il vespe pericoloso. Ma non frego nessuno. Hai ragione, però hanno avuto un scusami, adesso che ti sei guadagnato la citazione su Blob. Sgarbi Collection. Ma tu te la ricordavi sta cosa? Io sì. Faceva. Ma è vero, però d'accordo. No, però cioè, la imiti meglio tu. Perché non ti invitò Vespa? L'imitavi meglio tu la Marchi. Bruneo, lui faceva. Tu com'è che lo fanno così? D'accordo! Allora abbiamo un chilo di sale che non è sale, ma è magico! Lo metterete sulla gamba, guarisce subito! 2000 euro! D'accordo? D'accordo! E così. Tu pensa a vendere la roba vegana, no? La Marchi che vende prodotti vegani. Abbiamo questa bistecchina di soia fatta solo con la soia, la pagate 22.000 euro! D'accordo? Insomma, 22.000 euro. Se non la mangi, starai malissimo! Ti verrà un tumore allo stomaco! D'accordo? Ma dice come? 22.000 euro? D'accordo? E la vecchina comprava la roba, no, di soia, la vecchina. Questa era la Marchi. La versione della Marchi vegana 2.0. Esatto. Satan! Che non Seitan, è il Satana! Seitan. Come si chiama? Seitan. Marchi, si chiama Seitan, non vorrei correre. Seitan! Come cazzo mi chiamo? D'accordo? E che vendiamo col Seitan? Non ho capito. Seitan. Col Seitan ve lo vendiamo! Quello più una pentola dove cucinare il Seitan biologico! A soltanto 25.000 euro! Penso. Uno più Seitan più la pentola! 25 pentola senza coperchi, d'accordo? Dice, come si fa a cucinare la pentola senza? Con le mani così ti ustioni, d'accordo? No, 25.000 euro! Una volta che ti sei ustionato c'è il sale della Marchi! La nobile! Nobile! Perché è nobile quando vende, d'accordo? Il rinascimento! Prendi la pentola! Caldissima! Ti ustioni con le dita! D'accordo? Basta! Okay. Abbiamo capito! Addio! No, Gennaro, provincia di Trento, vai! Gennaro Migliore, cioè? No, ma non è Gennaro Migliore, non lo so. Gianni, Parenzo! Complimenti per la trasmissione. Vai, dimmi. Levati questo viva voce maledetto. Ah, no, non sono in viva voce. Chiudi la radio. Pronto? Ti senti meglio? Vai, dimmi. Oh, carissimi, allora io volevo semplicemente dire questo, che questa sentenza di Strasburgo non è altro, è un atto di civiltà. Forse ho sentito tanti interventi strani, ma forse l'annichilimento ormai del berlusconismo, della dittatura massmediologica, ha rincitrullito un po' le persone. Cioè, quindi non questo ho è un perché atto di civiltà. E non possiamo nel modo più assoluto dimenticare quello scusa, che è successo. Caro siamo amico, Berlusconi, caro amico, coercitivo. Sì, ma che c'entra Berlusconi? Scusa, non ho capito. No. Perché era il governo Cruzati. All'epoca, non ho capito. Dicevo, ho sentito tanti interventi che mi sembravano al limite della ragionevolezza. Ecco, per questo dicevo, forse tanti anni di berlusconismo ci ha rincitrulliti, ormai non riusciamo più a fare un discernimento un discernimento. Che, sì, tra ciò che è uno stato coercitivo, perché sì, in realtà questa è una sentenza giustissima che doveva arrivare. Sì. Con questo non voglio. Ma non ho capito il rincitrullimento berlusconiano cosa c'entra? Che cosa c'entra? Tanti sì, anni di berlusconismo? C'entra che ormai le persone hanno completamente obliterato il loro io senziente. Il loro quindi io senziente. Obliterato, sì, obliterato il loro io senziente. Sono stati obliterati il loro io senziente. Sì, da chi? Da Berlusconi, non ho capito. No, dai signori della guerra psicologica. Berlusconi è soltanto una signori della guerra psicologica. Sempre signore della guerra psicologica, sì. Sì, i signori della guerra. Cruciani, forse tu non te ne sei accorto, ma qui ti consigliano che cosa mangiare, cosa bere, come vestire, la musica da ascoltare, ma il chi? Politico da votare. Ma chi? E alla fine non sappiamo più se scegliamo o se veniamo scelti da ma qualcuno. Chi? Ma chi? Quindi, Giuseppe, volevo dire semplicemente questo. Semplicemente, sempre no, semplicemente, non, sì. Non mi far divagare. Cioè, volevo dire che non mi far divagare, sei tu che hai parlato di io senziente, di altri che ci fanno scegliere, sei tu che divaghi. Parenzio, vieni in soccorso, è cruciale. Non ti può venire. Non posso, amico mio, perché l'hai sparato troppo grosso, non esiste il soccorso. Vabbè, Danilo dalla provincia di Como, dai, questo è matto, dai. Pronto soccorso. Danilo, appunto, non il soccorso, il pronto soccorso. Danilo, vai. Dimmi. Pronto, buonasera Cruciani. Senta, io stasera ho sentito, sento poche volte la sua sì, la vostra trasmissione perché vabbè, non ho occasione alla sì, sera. Allora, quando vado in macchina come adesso riesco a sentirla. Avete toccato un argomento che è quello della sentenza, così. Volevo dire una cosa invece sul problema dei vegani e della mia. Vabbè, vai veloce, vai. Dunque. Velocissimo. Ecco, secondo me state, non lo so, ridicolizzando, ma mettendo proprio un problema che invece è enorme, fondamentale, che è il rispetto sì, della vita in tutti gli aspetti, no? Sì, lei però terra, per questa conferenza, come dire, per questa conferenza filosofica sul valore della vita, si può anche rivolgere ad un'altra sede. Anche il suo, anche la sua vita, la mia vita di tutte sì, le certo, persone normali. Si no? Fermi un attimo, si fermi attimo, che dopo le presento una persona molto interessante a proposito di vita. La signora si chiama Lady Pantera ed è una prostituta transessuale, persona meravigliosa. Lady Pantera è con noi, prostituta transessuale, persona meravigliosa. Caro Parenzo, vuoi dare un'indicazione? Si è occupata della vicenda di Strasburgo, la signora Pantera? No, la signora no, Lady Pantera, che in realtà si chiama Chris Molinari ed è una delle prostitute transessuali. Parente di Maurizio Molinari, no? No, non credo, no, non lo so, può darsi pure, no. Ma non credo, guarda. Non credo, non sarebbe niente di strano, perché tu ti vergogneresti ad avere un parente transessuale, prostituta? No, non credo che ti vergogneresti, no. Oddio, un po' il cuore mi dispiacerebbe. Ma sei veramente, lo sai che sei razzista, sei veramente un razzismo pazzesco. No, ma se lei è felice, sarei felice. Ma certo che è felice, una donna felicissima. Signora Chris, come sta? Bene, grazie. Comunque sia, secondo me lei, diciamo, con le parole va abbastanza, diciamo, garbando, direi. Molto. Se lei si riferisce a me, la prostituta trans o Lady Pantera, questo è un fatto riservato. Il fatto. Ma come riservato? Poi riservato il corno, amica. Non vuol dire automaticamente prostituta. No, assolutamente, ma scusi. E poi attualmente non sto svolgendo, diciamo, questo tipo di mestiere, vorrei anche chiarire questo. No. Però in passato sì. Però sì, sono qui per rispondere alle sue domande, mi dica. No, no, signora, come la chiama innanzitutto? Chris, Lady? Guarda, io sono conosciuta appunto come mio personaggio, come Lady Pantera. Come anche Lady Pantera? Molto famosa da tanti anni in Italia. Assolutamente, la posso chiamare Lady Pantera? Pantera dunque, che no? Su YouTube, sì, Lady Pantera. Beh, lei lo sa che ha una segreteria telefonica strepitosa, signora Lady Pantera? Lo so, infatti io ho creato anche Lady Pantera 2, ma non ho avuto tempo ancora di registrarlo, perché i miei fans da più di 10 anni, diciamo 14 anni che aspettano di sentire la nuova edizione di Lady Pantera, capito? Ah, beh, Lady Pantera, padrona autoritaria, suprema, sadica, perversa, implacabile, ecco, più o meno questa. Più o meno recita prima, così, ma noi abbiamo tutto, abbiamo preso pezzi di questa segreteria, solo che prima bisogna dare un'indicazione ai minori, caro Parenzo, no? No, allora, no, lei, Parenzo, no, che deve lei, signora, scusi. No, lei, ma lei, scusa, no, ma non lei. So, ma sono due persone che stanno parlando con sì, me. Sì, sì, sono sì, Cruciani, signora, che sono io, c'è il signor Parenzo. Signor Parenzo, ah, adesso... ma voi siete in due link studio, diciamo. Sì, siamo in due. Uno è da una parte dell'Italia, uno dall'altra. Ma lei dove si trova? Lei dove si trova, signora Pantera? La sciagurata risposta. Dove si trova lei, signora? Allora, ragazzi, cosa volete sapere? Come si no, come si dove si trova lei, signora Pantera? Adesso... mi puoi chiamare Lady, grazie. Sì, prego. La signora, problema. Vabbè che vuoi dire la stessa cosa come traduzione da inglese e italiano. Però Lady, però la chiamo Lady. Lady mi sento più a mio agio. Ma come no? Quanti anni hai, Lady? Madame. Quanti anni hai, Lady? Ah, ecco, questa domanda diciamo che ti boccio subito. Una donna non fa mai, non dovresti vabbè, mai fare una domanda mia, però, comunque mi trovo a Roma, nella capitale d'Italia. Come hai, 38 anni? La città più bella e romantica d'Italia, capito? 38 anni hai, mi sembra, no, signora? Cosa? Ma è importante la mia età? Molto importante, molto importante. Perché, scusami? No, ma così per inquadrare la situazione, per inquadrare il personaggio, no? Diciamo poi... che ho l'età giusta per far innamorare un uomo, per essere una brava moglie. Beh, diciamo una che ormai maestra. Mi sa che hai perso un po' di tempo e soprattutto hai un, come dire, però mai dire l'ultimo, mai dire mai, eh. Posso pure che adesso ti sposi, trovi un uomo, vorresti trovare un uomo molto ricco e lasciare così questa professione della prostituta, che è una nobilissima professione, che tu hai già un po' lasciato, però ancora eserciti ogni tanto, o sbaglio? Allora, intanto io il fatto di concedermi a un uomo a letto sì. magari non ha nulla a che vedere con questa professione, anche perché in Italia, che sì. io sappia, non risulta come una professione, visto che siamo in Italia. Purtroppo diciamo no, che purtroppo questo, no, purtroppo non è considerato a non essere, diciamo, quando si tratta di sborsare di tasca mia per lo Stato, diciamo, dei... sì. Senti, delle sì. piccole commissioni, certo. così, cara no? Lady, allora, cara Lady Pantera, andiamo subito al sodo. Ecco, allora, la cosa è questa: molto semplice. Mm. Tu, nella tua vita, quanto hai guadagnato con la tua professione, tra virgolette, cioè facendo la prostituta? Ah, vuoi sapere quanto ho guadagnato? Sì, in genere, quanto hai guadagnato? In tutto, quanto hai guadagnato? Vabbè, qui siamo alla radio, bisogna parlare. Cara diciamo Lady. Che. Preferisco astenermi a questa risposta e lasciare come la finanza stessa mi ha tassata, diciamo. Vabbè, ma la finanza a un certo punto ti ha fatto delle ispezioni, ha bussato, no? Toc toc. Signora, lei ha fatto un controllo, diciamo. C'è stato un controllo. Che multa ti hanno fatto, diciamo? Che sanzione ti hanno erogato? Guarda, in totale loro mi hanno fatto comunque sono 5 multe, diciamo, capito? 5 non è multe. Che mi hanno fatto una multa sola. La prima è circa 135, la prima. In totale sono circa 350 tutto. 350.000 euro. Dunque tu sicuramente comprese le sanzioni, chiaro, comprese le sanzioni, però diciamo che le sanzioni non le devi pagare, no? C'è stata questa sentenza per cui tu non pagherai le sanzioni, giusto? Sì, le sanzioni, diciamo, sono state annullate. Sono state annullate. Benissimo, grande vittoria, noi siamo molto contenti di questa roba qui, però comunque sarai... La commissione tributaria mi ha detto naturalmente per quanto riguarda le sanzioni no, capito? Benissimo, invece tu dovrai pagare circa... Tramite, naturalmente, mio bravissimo avvocato Alessio Tranfa, che è una persona, diciamo... Va bene, d'accordo, grazie alla quello che fa, è una persona che è determinato. Va bene, d'accordo, però cara Lady, quanto devi pagare? 60.000, 70.000? Sì. Loro mi hanno praticamente togliendo, diciamo, le sanzioni circa dalla prima multa, invece 135 e circa 60.000. 60.000. Era quello che loro mi hanno. Ma io dico, ma se uno non ha una professione riconosciuta, perché lo Stato ecco, questa domanda te la faccio pure io, mio caro. No, ma io sono dalla sì, tua Italia, parte, sono dalla tua non parte. Non hanno riconosciuto quello che io faccio. Come mai loro da me vogliono, diciamo, una percentuale? È come per dire, no, in Italia c'è la legge del favoreggiamento, della prostituzione, dello sfruttamento. Sì. C'è la legge che lo Stato dovrebbe proteggere le prostitute, quelli che svolgono il lavoro di meretrice, chiamiamolo così. Meretrice. Però lo Stato stesso dice ti proteggo, però deve pagarlo a me, ma non capite, mi stai preservando che mi sfruttano l'altro e poi vuoi te per i soldi miei. Cioè praticamente lo Stato fa il è un controsenso, diciamo che è un'arma a doppio taglio, come vedi non paga il pappone ma devo pagare lo Stato. E appunto lo Stato è come mio. Ha ragione, come se lo Stato facesse il pappone da questo punto di vista. Diciamo, guarda, in maniera complessa da dire che purtroppo sì. se devo vedere in maniera è come se veramente vengo sfruttata dallo Stato. Loro mi stanno inducendo a prostituirmi ancora perché io voglio sapere dove prendo questi soldi. E che ne so, hai spesi ormai io non faccio più questo mestiere e loro da me vogliono i soldi, giusto? Ma ancora lo fai, dai. A una banca? Ancora lo ma fai. Ma lei ancora esercita un po', sì, signora? Sì, ha voglia, come no. Guardi, ragazzi, io dirò una cosa poi. Come gli uomini non smetteranno mai di sentire piacere, manco io smetterò di sentire piacere, perciò è una fatto, ma è anche inutile. Comunque, trans è sempre un oggetto di desiderio. Una anche trans? Se non svolgo più, beh, sì, non è detto che non possa concedermi un uomo a letto. Poi se lui vuole essere così generoso con me, non è che posso neanche dire di no. Vabbè, una insomma, ancora fai la sua parte femminile e accettare i doni che vengono concessi, no? Sì, ma ancora fai la prostituta, diciamola chiara, dai, su, è inutile girarci intorno. Ogni tanto, in realtà ancora fai la prostituta a pieno ritmo, a pieno regime, diciamo, no? A pieno regime. No, ma perché sei stato con me, tesoro? Come fai a sapere che faccio prostituta? Scusa, ma sì, mia, dai, su, dai, Chris, sennò come campi, dai. Ma vabbè, io non so se è quello che interessa per sapere se io faccio o non lo faccio. Comunque sì, io ti voglio dire una cosa, a parte dimmi. Che come per dire che loro, se mi avessero detto prima, sì, allora, nel periodo d'oro, dove si guadagnava anche 50 o 60 milioni di lire, sì, dell'euro all'inizio, 20-30 mila euro al mese, è normale che io avrei pagato le tasse. Ma tu mi dici dopo tanti anni che allora quello che guadagno devo dare? No, ma hai ragione tu, hai ragione tu. Mi chiedono tutti insieme, poi come li trovi questi soldi? Poi, ma Parenzo, al di là degli scherzi, cioè, ha ragione la signora Lady Pantera. Continuare appunto a dare a fare, ma ha ragione, sì, diciamo, avere i rapporti orali, i rapporti di stato manzo. Non ho capito, scusi. No, sono il tipo di rapporti che vengono richiesti alla signora. Le ricordo, signora, che lei è ospite della Radio 24, gruppo. Okay. No, per carità, gruppo Sole 24 Ore. Solitamente questa radio si occupa di economia. No. Ah, economia più occupata, ho capito. Ma infatti questa è grande economia, sì, cioè sì, stiamo parlando di grandi temi economici, i suoi rapporti, di grandissimi, diciamo, temi economici, perché vari, no, ma questa è la dimostrazione del fatto, sì, che l'Italia potrebbe incassare un sacco di soldi, ma li deve incassare. Ma è vero, aspetta che ti do ragione io, quello che stai dicendo te è vero, l'Italia uscirebbe da questa crisi. Beh, adesso non esageriamo. Tutte essere il braccio destro a loro, ma naturalmente tu non puoi solo pretendere, non vuoi dare niente, è un dare e prendere, non solo un pedi nulla dare, ma tu se metti in regola la prostituzione, sì, naturalmente oggi è una professione come tutte le altre, perché tante persone lo fanno per sport, tanto lo fanno per gioco, gli uomini comunque cercano la prostituta, anche perché la cercano in la certi prostituta. Casi la, sì, prostituta è più conveniente di un rapporto a lungo termine, in che senso? Cosa, interessante, consumi, basta, ma non stai lì che devi fare una storia d'amore, devi fare tutta la parte, la, sì, finta, che poi alla fine va a mettere uguale con la tua moglie. Beh, questa è una teoria interessante, questa è una teoria interessante. Ti sposi, ma fino a quel momento te non è che ti fermi, giusto? Io credo che se un uomo non ha una colazione ogni minimo due giorni, sì, naturalmente si sente male, e le prostitute sono le vie di sfogo, è una cosa, cioè, lei chiara. Dice, lei non dice, se un uomo non ha, non ho capito, se un uomo non ha, scusi? Non ho capito. Se un uomo non riesce ad avere una eiaculazione, sì, eiaculazione, minimo entro due giorni, in due giorni, minimo, si minimo. Male. Minimo. E tante donne hanno anche i loro problemi, il semaforo rosso, a volte le donne non sono disponibili, devono è la radio della confusione. Decidono donne o trans o uomini. Signora mia, perdoni. No, ma mi sembra. No, ma si fermi un attimo. Si fermi un attimo. No, lei ha detto. Ha usato un termine che è molto interessante, detto alla brasiliana. L'uomo deve avere una volta ogni due giorni delle eiaculazioni. Com'era? Com'era? Allora, poi che parla proprio italiana, no? Vabbè, comunque, la cosa fondamentale, ecco, di Lady Pantera è una. Lei dice che bisogna regolarizzare tutto, giusto? No, io credo che se una cosa va fatta, non deve essere fatta alla mor di fuggi, deve essere fatta al modo giusto. Se lo Stato vuole i soldi delle prostitute, allora che mettono in regola le prostitute. Oh, non me li chiedono così. Ma non venire a puntare il dedo, prima è Fibol, poi a Lady Pantera, poi magari un'altra mia amica che sarà multata, poverina. Ma ha ragione, ma comunque su questa cosa qua ha ragione. Ma vuol tornare a battere. Ma ha ragione. Pagare una multa, ma stiamo scherzando. Ma ragazzi, certo, ma ha ragione. Ho capito, ma fino a quando non c'è la regolarizzazione? Ma non puoi, di non te la mestiere. Puoi prendere ogni tanto con una e multarla, perché poi. Ho capito, ma ci sono soldi in nero, ascolta, questi, però. È quello proprio il mio il significato di tutto ciò che io credo. Sì, che signora Lady. Ah, sai che c'è? Te, però, Lady, scusi. I reati che l'incasso non sono stati mai dichiarati. No, ma. Ha ragione. Madame, all'estero, poi, ma va bene, ma io sono favorevole al Sud America, hanno fatto patrimoni in Brasile. Dopo quello di FBAL si è aperto un altro caso, il caso di Lady Pantera, multata dal fisco, graziata a metà. Graziata, graziato a metà, fate voi. Transessuale romano, abbastanza conosciuto, dicono in quel mondo. che è con noi, che ci racconta una storia pazzesca, una storia ventennale di prostituzione. Adesso dice: mi vogliono ributtare sulla strada, diciamo così, perché mi hanno messo una multa di 60.000 euro. No, ascolta, aspetta, fermo, ci sono fermo. Le altre, non ti scordare. No, ma certo ci sono le altre, ecco. Mica ci sei solo tu. Però, insomma, dopo il caso F-Ball c'è il caso di Lady Pantera. Però qui dobbiamo risolvere un arcano, caro Parenzo. L'arcano è il messaggio mandato su Twitter a Pasquetta, sì, dal senatore Antonio Razzi. Ora, solo noi siamo in grado di raccontarvi, di dirvi tutta la verità e nient'altro che la verità. Caro Antonio, come va? Buonasera, adesso meglio perché mi sono mangiato un paio di piatti di lasagne e fagioli. Ah, grande melograno, amico mio, lasagne e fagioli, lasagne, sì, sì. Adesso mi sono riscaldato un po' perché stavo un po' tutto giù. Allora, beh, un po' di peperoncino. Abbracciami gli amici, abbracciami gli amici del melograno. Spero di tornare presto. Lasagne e fagioli. Bravo, lì si mangiano degli arrosticini pazzeschi anche. Anto, io voglio capire una cosa. Sì. Racconta all'Italia quello che è successo. Un momento, la notizia. Aspetta, che è la notizia, dimmi. È morto Duke, lo sceriffo di Hazard. Che è lo sceriffo di... Non ti ricordi la serie TV quando eravamo bambini? Ma che me ne frega adesso? Ma qui stiamo parlando, no, ragazzi, di, ma questo... stiamo parlando di Antonio Razzi. Chiameranno milioni di persone stasera. Vabbè, è morto Duke. Vabbè, Antonio, che è successo allora con questa roba qua? Pasquetta scritto con la C, no, diciamo, no? No, ma guarda, io... Innanzitutto, come... sei tu quello. Sì, sono io. Quello sono io. Gli altri sono falsi. Quello invece... È il mio account. Oh, lo pronunci allora, bene però, account. Account. Ormai, come si dice, andare con i zoppi si impara a zoppicare. Allora... Quale zoppi? Allora, l'account, la prima notizia è questa. L'account Antonio Razzi, quello con il senatore Razzi, quello, con la mano, com'è? Bravo, con la mano sotto il mento, o sotto l'humus, come si dice in dialetto abruzzese. Bravo. Sotto l'humus, e quello è mio. È l'account ufficiale di Antonio Razzi. Ufficiale. Benissimo. Mio. Benissimo. Allora, io ho ottenuto che la Pasqua l'ho fatto in italiano. Sì. Buona Pasqua, eccetera, eccetera. La Pasquetta lo devo fare con la lingua ufficiale mia, quella abruzzese. Ho ottenuto di dire la Pasquetta, capito come si dice? Cioè, mi stai dicendo che non è un errore di ortografia, no, dice, non è un errore di ignoranza, no? No, fatto di proposito, perché ritenevo e difendo tutte i dialetti italiani, perché mi sembra di mantenere il dialetto, non di levarlo, sì. E io mi mantengo il mio abruzzese e io me le scrivo bella come di... in dialetto abruzzese, a cucina me le capiscono tutte, quindi tutte le abruzzese l'hanno capito, però alla fine l'hanno capito pure gli altri, perché piano piano si stanno imparando tutti quanti l'abruzzese. Capito Parenzo, cioè la cosa è questa, molti hanno detto sì, ho capito, non l'ignoranza è un errore, di Razzi, eccetera, Pasquetta con la C, eccetera. Adesso io conosco Antonio da una vita, mi sembra un errore assurdo, cioè non è che potrà essere uno che non ha studiato, che ha lavorato tutta la vita, ma la Pasqua lo sa come si scrive, fino a lì ci arriviamo, no Anto? Quella l'hai scritta buona, Adesso la Pasquetta, tu lo sai benissimo, che ne capisce più di me, anche Davide capisce più di me per quanto riguarda questi geggi elettronici. Sì, geggi, sì. Scriveva Pasquetta, questo me l'ha scritto subito originale, proprio come si dice. Sì. Io invece l'ho dovuto correggere per scrivere in abruzzese, perché non è... cioè in abruzzese non ho capito, perché in abruzzese si scrive con la C, in abruzzese? Sì, si dice la Pasquetta, ha capito? No, ma che c'è? Dialetto, cioè, no? Si scrive, beh, si pronuncia... Paesi, tu lo sai che in vari paesi ci sono no, però mi scusa, la parola socquadro come si scrive? Beh, ad esempio io dalla parte mia, che dico da Giuliano di Latino, no? Giuliano di Latino si dice a cucina. No, ma che si dice? No, però scusami, facciamo un test, Antonio. Aspetta tipo. Un attimo, Antonio. Però la questione è molto semplice. Tu dici si dice così, però in realtà la pronuncia è uguale. Esatto. Che tu scrivi C o scrivi Q, la pronuncia è la stessa. Tu dici che nell'abruzzese scritto volgare si dice con la C, si scrive con la C? Beh, a Giuliano si scrive così. Giuliano di Adina si scrive così. Però ad esempio la parola socquadro. Abbiamo messo tutto a socquadro. Come si scrive socquadro? Ma Davide, io se lo scrivo sul cellulare, sì, io appena incomincio già me lo scrive tutto in italiano. Ah, Parenzo, però vuole sapere come si scrive socquadro. Ma lo sa come si scrive socquadro? Socquadro, cioè ti mette la Q. Ma quante? quando ce ne metti? Ce ne metto 2-3 almeno, se qualcuno lo levi, se per caso ce ne sta qualcuno in più lo levi, no? abbondiamo, fermo sempre tutti, ci se ne mette di più. A voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Abbiamo risolto l'arcano. Allora, il tweet è stato scritto sì dall'account di Antonio Razzi, che è il suo, quello ufficiale, però è stato deliberatamente scritto buona Pasquetta con la C e non con la Q. Sì, per, come si pronuncia in abruzzese. Come si, però la pronuncia è uguale in abruzzese o in italiano, Anto, dobbiamo, da sì, parenza. No, magari io l'ho scritta, l'hai scritta apposta. Cioè, perché la pronuncia è più con la C, Pasquetta, come a Pasquetta. A Pasquetta. La Q non si sente, capito? Si sente la C. Allora tu l'hai scritto con la C. Poi, però quando ti attaccavano e ti dicevano ignorante, eccetera, tu non hai reagito. Hai lasciato cuocere nel brodo, diciamo, no? Ma la sera che si diverte a scrivere, che scrivo. Io dico la mia, nel senso che io difendo il dialetto, come magari Davide difende il dialetto paduan. Ma pure in spagnolo si scrive così. Anche in spagnolo, mia moglie mi ha detto: guarda, che in spagnolo si scrive con la C e non con la Q. Perciò allora posso pure dire che l'ho scritto quasi in castigliano. Diciamo pure questo, va. Quasi, ho scritto in dialetto abruzzese, quasi in castigliano, numero un bete liguglione, diciamo, no? Come si dice? Come si dice in dialetto abruzzese? Sì, numero un bete liguglione. La gente mi sta tranquilla, dice, noi che andiamo a fine male. Allora ti posso presentare la signora Lady Pantera. Intanto diamo un grande annuncio, che giovedì tu sarai negli studi di Roma Radio 24 insieme a me e a David. La signora Lady Pantera è una transessuale prostituta alla quale vuole la regolarizzazione del suo mestiere. Mi sembra che tu sei d'accordo, no, caro? Ma io ho fatto la proposta di legge, ci mancherebbe altro. Capito? Lady, conosci il senatore Razzi, Lady? No, non conosco. Non, ma come, sei l'unica in Italia? Sei l'unica in Italia che non conosce il senatore Razzi. Senti, Lady. Ascolti, io non guardo molto la televisione. Allora, non ho tanto tempo, capito? Allora devi cambiare mestiere se non mi conosci. Comunque mi piace molto la sua calata, senatore. La conosco, è molto sensuale. Io la voce. Beh, sta a rimorchiare in radio, scusa. Io, sei mai stato con un transessuale, Antonio? Lo conosco, io lo chiamo un toast, non sono transessuale, toast. Come toast? Quelli erano hai detto da tramezzini, invece toast. I transessuali sono dei toast, I transessuali sono toast, invece i tramezzini. Ah, guarda, ascolta, scusami. Forse è più carino se ti rivolgi alle trans, con una trans, non le. Vabbè, uguale. Al femminile rivolgete, più carino, diciamo. No, ma io le parlo in dialetto abruzzese, se le parlo in brasiliano. No, ma lui non ce l'ha. Comunque dice toast. Perché toast, scusa, Anto? Non capire che vuol dire toast. Aspetta, facciamocelo spiegare un attimo. No, io ho definito, perché non mi piace chiamare transessuali. Trans, non ti piace. Rispetto i trans, rispetto loro. Perché quello è anche un mestiere. Certo, allora, beh, un mestiere, io lo definisco un toast. Toast. E che i tramezzini sono quei famosi... I gay. Beh, come lo dicevamo noi in dialetto, li chiamavano pure ricchiune. No? I ricchiune, sì. No. Scusami, fermati un attimo. Lui come intende una trans? Scusami. Ma io lo definisco più dolce, un toast. Una cosa dolce. Ma che ne so, un toast? Perché un toast? Perché un toast si mangia, ecco. È più dolce un transessuale, tu dici, di un gay alla fine, è più dolce. Lui sta dicendo di una trans e di un gay, ho capito. Sì, capito, no, cioè si mangia, il toast si mangia. Ma cioè tu hai nei tuoi desideri sessuali c'è un transessuale, Antonio, sì. Una trans, grazie, caro. Io ne ho conosciuto qualcuno. Non hai mai avuto desiderio sessuale, però? Non ho mai avuto il piacere. Non hai mai avuto il piacere. Va bene, caro, ti saluto. Ci vediamo giovedì. Ciao. Salute, ciao. Lady. Eccomi. Io ti voglio sempre con me, cara Lady. Ti vorrei sempre con me. Amore, tesoro, ti vorrei sempre con me. Sei adorabile. Comunque sei molto simpatico, lo sai, eh? Cara Lady, ti vorrei sempre vi con lascio, me. Qual è, soli, qual, è la tua qual è la specialità che ti chiedono sempre i tuoi clienti, cara Lady? Allora, parliamo del passato. Vuoi sapere? Ma non è il passato, dai, ancora lo fai. Dai, forza. Dai, su. Ma perché sei così curioso? Non è che poi ti sono appuntamento, vero? No, l'appuntamento no, amica mia. Vi lascio soli, ragazzi. No, no, no, che continui a insistere, dai, dai, dai. Comunque, ma che cosa cambia, comunque scusa, Lady, adesso ti lascio, magari ti richiamo un'altra volta. Però la cosa fondamentale da dire è questa: non rompete le scatole a Lady Pantera e a tutte le altre prostitute transessuali andando a pizzicare i loro redditi. O fate una legge per la legalizzazione, bravo, oppure queste qua guadagnano in nero. Punto e basta, dai, su. Anche perché così allora ci vorrebbe veramente una rete da pesca qua, ma di quei livelli proprio mastodontici, perché purtroppo bisogna vedere la realtà per quella che è. Non è che sono io quella che ha incassato milioni di euro qua. Tutti vabbè, qualche soldo, milioni di euro, qualche capito? Soldo, e tutti usano il servizio. Capisce? Che perché non è che cadono dal cielo. Usano, tu soldi, dici, ma tu con chi sei andata? Politici, uomini d'affari. Ti rifatto la domanda proprio a ciliegina sulla torta. Certo che non è che ti posso dire con chi sono stata. No, io ma i politici. Con l'uomo della porta accanto, per dire, chiunque può essere stato con me, capito? Però perché non è che chiede carte d'identità. No, beh, però politici sono venuti da te, diciamo la verità, Lady. Guarda, soprattutto i giornalisti sono quelli che piacciono di più, lo sai? Eh? Beh, ottimo. Ciao Lady, un abbraccio. Ciao Lady, ciao, ciao, ciao, ciao. Saluti, ciao. Ciao Chris, ciao. Renato, provincia di Genova, vai. Ciao, buona serata. Senti, voglio ritornare sull'argomento dei vegetariani. Sì. Per me è fondamentale, anche perché credo che il rispetto della vita sia a prescindere dalle varie condizioni. Sì. Senti, il punto è, noi ci nutriamo, d'accordo, dobbiamo nutrirci, è vero. Sì. Ma perché creare sofferenza? Perché massacrare animali? Io non sono vegetariano, io non massacro animali, è diverso. Ma l'ho capito io, Renato, ma va benissimo. No, non hai capito. No, no, non ho capito, tu mi consideri, allora, mi consideri un complice dei massacratori? No, no, torniamo, no, aspetta, non lo cambi, torno indietro. Aspetta, un minuto e 45. No, dobbiamo nutrirci. Il punto è, sì, mi nutro perfettamente, molto meglio, togliendo i cadaveri e i pesci, ovviamente. Ma noi i cadaveri, perché? Ancora con questa storia dei cadaveri. È la parola giusta. Io non ci mettevo cosa mangi, cosa sono. Aspetta un attimo, torna indietro. Tu sei parlato, aspetta. Ci sono animali. Sì, un minuto perfettamente, sto da Dio mangiando altre cose, molto meglio. Personalmente per il gusto che sento in gola devo massacrare un animale. Perché? Dimmi il motivo. Qual è il motivo? Ma no, Renato, non è il motivo, che c'entra il motivo? È evidente, c'è un motivo. Gli animali da quando esiste l'uomo vengono uccisi, mi sembra abbastanza evoluto. Senti, poi nell'evoluzione esistono adesso anche chi ha rinunciato alla carne, eccetera, però non si può tu proibiresti ma che c'entra grandi scienziati, quindi cioè secondo te il vegano, secondo te il vegano vegetariano che poi sono due cose diverse, ovviamente sono esseri superiori. Sto dicendo che si tratta di rispettare la vita e andare fuori. Appunto, ma allora se tu dici che io non rispetto la vita, mi consideri un assassino? No, io penso che non hai capito, non hai ancora indagato a fondo la questione. Se tu sei davanti a me e c'è una mucca che cammina dal prato e mi dice ma la ammazzo e non la mangio, io non te lo faccio fare perché è illegale. Scusa, nel passato c'erano gli schiavi, c'erano le donne che venivano. Non è la stessa cosa. Morte. Lo schiavismo non è la stessa cosa di mangiare un animale, dai. Un attimo. No, ci ragiono, ma non arriverò mai alla tua conclusione. Ho ragionato malissimo. Hai usato i termini di paragone, assolutamente sbagliati. Il fatto è, noi lo facciamo solo per il gusto della gola. È una cosa accaroniata questa. Ciao, ciao tesoro, ciao, ciao. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'accio. Beh, caro Parenzo, fra poco ti presenterò un ospite un po' speciale, diciamo la verità. Bene. Prima però voglio riassumere voglio riassumere quello che è successo. Una storia meravigliosa, in cui c'è stato una storia che ha come epicentro uno scontro, chiamiamolo così, anche se poi non è stato un vero scontro, tra un gruppo di suore sì, di clausura, sì, di Napoli, le Clarisse, e Luciana Littizzetto. Certo. Tutto è iniziato quando c'è stato il Papa in visita a Napoli. Cardinal Sepe, sentiamo. Ho dato facoltà a tutte le suore di clausura di 7 conventi di Napoli che stanno qui a uscire. Sono tutte di clausura. Dopo, guarda qua, come ho fatto? Sorelle, dopo, ma. E queste sono i clausuri, figuriamoci quelle non clausuri. Che cosa succede? E chi ne su mangi non ha dovuto, vedete? Sorelle, sorelle, tenimi che fa? Sorelle, annaggia che l'hai sempre su. Questo era il Cardinal Sepe, eh? Cardinal Sepe che diceva, sorelle, calma, non prendete d'assalto il Santo Padre. Luciana di Tizzetto, come sapete, ci ha ricamato sopra. Però il momento migliore in assoluto, il momento supremo della comicità è massima quando ha conosciuto le suore di clausura. E poi queste suore, che non si capisce, saranno tutte intorno al Papa perché non avevo mai visto un Papa o non avevo mai visto un uomo. Da tutto tempo. La stupenda risposta di Suor Rosa. Ma noi se volevamo abbracciare qualche uomo, certo non approfittavamo di questa occasione, di questa situazione, in un consesso di uomini totalmente dedicati a Dio. Avremmo scelto altri luoghi. E altri uomini. E di nuovo la Littizzetto. Posso dire una cosa alle claustrosuore? No. Scusa, no. Non mi guardate. No. Io sono pericolosissima. Io parlo solo di Valtre di Yolanda, sì, capisci? Vero. Finite all'inferno tutte quante. Io sono, non sono una pecora nera, sono una pecora nerissima. Lascio il segno nero sul cuscino anche. Beh, io sono quasi emozionato di avere qui Suor Rosa, che è praticamente quella che gestisce il sito Facebook delle Clarisse del monastero delle Clarisse Cappuccine di Napoli. Buonasera. Buonasera. Come sta innanzitutto? Buonasera sorella. Buonasera, sto bene, grazie. Senta, ma cosa le è rimasta di questa polemica? Intanto voglio dire, suora di clausura che parla al telefono, io già per me è una cosa incredibile. Forse ho un'idea delle suore di clausura un po' antiquata, che dice? Sì, probabilmente sì. Cioè sono io un po' che non no, ci... No, non solo lei, tante persone pensano che la clausura equivalga a una vita medievale. Siamo persone perfettamente normali, in linea sì. con i tempi, per quanto è possibile, certo. Per cui per voi è normale parlare al telefono? Certo, fare... il nostro telefono è occupatissimo dalla mattina alla sera, da richieste di preghiera da tutta Italia. Ma avete pure il cellulare o no? La badessa che sono io, sì. Ah, lei ha pure il cellulare. Ma allora, scusi, che clausura è? Che se è così aperta? Che dipende che cosa lei intende per clausura. Lei conosce le norme sulla clausura? Assolutamente no. Ecco, io però nella le mia... norme sulla clausura non vietano questi strumenti di comunicazione. No, non c'è dubbio, perché altrimenti sareste come state. Semplicemente no? consigliano l'uso equilibrato di questi mezzi di comunicazione. L'uso equilibrato, straordinario. No, capito, però se l'uso equilibrato. Nell'immaginario collettivo, clausura. Ecco, bravo, nell'immaginario collettivo, clausura è un'altra cosa, ma magari non ci capiamo, ma siamo noi che non capiamo, ignoranti, sì, no, questo sicuro, è il punto, siamo noi ignorantissimi evidentemente. Lei ma... conosceva la zanzara? Basta, è interessante andare... non conoscevo, non ascoltiamo normalmente la radio. E la televisione la vedete? E nemmeno, solo in occasione di eventi importanti, come appunto sarebbe stata la visita del Papa se non avessimo avuto il permesso per uscire, sì. oppure sì. qualche evento particolare legato alla nostra città, come per esempio sono stati i funerali di Pino Daniele a Piazza Plebiscito, abbiamo seguito in televisione. Ah, quello ma c'è qualcuno che decide, adesso accendiamo la televisione, che succede? Chi? Allora, diciamo che normalmente siamo informate, leggiamo i giornali, sì. quindi se ci sono degli eventi particolari siamo informate, e, si decide insieme. E poi è la badessa l'ultima che ha la parola per valutare se è una situazione da prendere in considerazione. Ma le ha dato a lei adesso personalmente, lo può dire forse per la prima volta, le ha dato davvero molto fastidio questa cosa della Littizzetto, questa presa in giro? L'abbiamo fatto anche noi, per carità, probabilmente l'hanno fatta tutti e voi non lo sapete, delle sì, suore certo. di clausura 2.0 che parlano. Oggi addirittura si è scoperto che un'altra suora di clausura, non c'entrate niente voi, è stata fotografata mentre va in motorino dietro ad una persona, in motorino sì. dietro ad una persona sì, certo. Che pensa lei della Littizzetto? Allora, guardi, normalmente non vediamo il programma della Littizzetto e la cosa è andata così. Ho telefonato a un frate per prendere accordi per la messa del giorno dopo. Sì. E loro, invece, i frati che vedono normalmente la televisione, mi ha detto, guarda, c'è la Littizzetto, una sì. comica che sta parlando di voi, sì. dell'incontro di ieri con il Papa. Sì. Bene, la cosa è finita lì. E poi altre persone poi ci hanno detto che lei era stata un po'... cortese, diciamo così, nei nostri confronti. Allora ho deciso di andare su YouTube e vedere questo video. Ah, per cui lei può decidere di andare tranquillamente su YouTube e vedere un video o no? O col permesso di qualcuno? Certo, io uso il computer. Ah, lei usa il computer, per può andare studio, tranquillamente per lavoro, per tantissime cose. Beh, attenzione, è pericolosissimo il computer, si possono avere tentazioni pazze, incredibili col computer. Ma io penso di essere una donna perfettamente normale e di sapere bene quello che ho scelto e quello che va bene per me e quello che non va bene. Mi ha molto divertito che tutti si siano sentiti in dovere di raccomandarsi, di capire bene quello che dobbiamo fare. No, questo no, mica. No, sì, no. Sì, no, ci sono venute queste raccomandazioni da tante parti. Sì. Ma i selfie, non vi fate i selfie? Ma no. Non ci serve farlo. No. Chiedo. No, insomma, lei è andata su YouTube e ha visto il filmato della Littizzetto. Sì, solo il, non ho visto tutta la trasmissione, avevo certo tutto questo tempo a disposizione, solo sì. il minuto che lei ci ha dedicato. E, semplicemente lei ha dato voce a pensieri che tanti hanno nella loro testa. E l'ha dato con forza. E quello cioè, che mi ha dato fastidio è che normalmente le persone che ci dicono queste cose normalmente ce le dicono diciamo in faccia, come si suol dire sì. qui a Napoli, quindi sì. uno ha una possibilità di replica e invece con lei no. Vabbè, allora il mio pensiero è stato semplicemente di esprimere una mia valutazione sul nostro profilo Facebook che ha 2000 amici, niente, aveva, adesso è scomparso, inghiottito. Inghiottito in che senso? È stato bloccato per eccesso di richieste? Che sì, perché è arrivato a 6.000 accessi nel Ammazza. Giro di mezza giornata e quindi ci hanno chiesto di trasformarlo in pagina. Ma lei ha proprio avuto e voi non l'avete trasformato? E perché non vada Fazio? Perché non chiede? Faccia un appello qui dalla Ma ci andrebbe lei da certo. Fazio? Certo. Andrebbe ospite al programma di Fazio? Sì. Per fare cosa? Beh, per replicare la Littizzetto, per spiegare cosa fa la badessa. Due posizioni diverse, diciamo le cose da prospettive diverse. A me è semplicemente balenato in mente di dire qualcosa su questo perché riguardava noi personalmente, non in generale le monache di clausura. Le monache di clausura di Napoli che erano presenti a quell'incontro. Mi sono sentita interpellata in prima persona. Ma ripeto, ho espresso un mio pensiero in un ambito che a me sembrava circoscritto, mentre invece poi è sfuggito completamente da ogni controllo queste quattro parole. E si è pentita un po', o no? Eh? Un po' si è pentita di aver scritto quella cosa, di aver aperto. Ho capito che bisogna essere un po' più cauti. Che dunque non lo rifarebbe, diciamo la verità. Probabilmente. Io penso che sia sfuggito di mano semplicemente perché apparteniamo a questa categoria così poco conosciuta, ma che comunque fa notizia. Beh, certo, la suora di clausura nell'immaginario. Perché il Papa, prima di arrivare sul presbiterio dove eravamo noi, ha attraversato tutta la navata, preso d'assalto da tutte le persone che erano lì. Il Papa ci ha messo 10 minuti prima di arrivare. Anche dagli uomini, dice lei. Uomini, preti, frati, religiosi, tutti quelli che erano presenti. Il Papa non riusciva ad arrivare sul presbiterio, ma tutto questo non ha fatto notizia. Devo dire e invece che... il fatto che le suore si siano avvicinate per dargli il regalo, cosa che nessuno ha detto, perché noi ci siamo guardati, sì, è stato lo so. Un movimento di intesa. Non sapevamo se poi avremmo avuto altra occasione per potergli... Però devo dire la verità, che la risposta che lei ha dato a un certo punto alla Littizzetto, nell'intervento, nella cosa che avete scritto e anche a voce poi, che è quella, se dovevamo toccare un uomo ci saremmo rivolti ad una... Mi è sembrato molto irriverente che noi aspettassimo l'occasione per abbracciare il Papa come uomo. Il Papa per noi rappresenta tantissimo, un'occasione come questa a noi non ci si ripresenterà così facilmente, era 10 centimetri. Però lei però la Littizzetto fa la comica, e le devo ricordare questo, forse le sfugge questo aspetto. No, anzi, sì, lei l'ha certo. detto. Cioè, la Littizzetto fa la comica. Però delle persone che noi conosciamo, nessuno ha riso, tutti si sono molto arrabbiati. Noi abbiamo avuto delle manifestazioni di solidarietà da parte di tantissima gente. Addirittura, cioè, nessuno si è messo a ridere per questa cosa qua della Littizzetto. Non faceva ridere, dice lei. La presa in giro, la presa per i fondelli della suora di clausura non fa ridere. Guardi, noi siamo arrivati a 15.000 accessi sulla nostra pagina. Tutti erano d'accordo con noi che finalmente qualcuno aveva avuto il coraggio di poter esprimere un pensiero diverso. Certo, detto da una monaca ha avuto una risonanza un po' particolare, no, certo. Ma soprattutto per il fatto che l'ha fatto attraverso Facebook. Comunque a lei non ha fatto ridere evidentemente questa cosa. No, mi ha fatto leggermente arrabbiare, altrimenti non avrei scritto. No, vabbè, magari le è scappata una cosa, però certo sono stata incauta nel non valutare, sì, appunto, la potenza dei mezzi di comunicazione, questo è vero. Questo l'ho detto subito a tutti. Sì. Ma la Littizzetti in clausura con voi allora dovrebbe venire? Ah, guardi, potrebbe essere un'esperienza bella per lei. Conoscerebbe delle donne che si sentono molto realizzate e sono molto felici. Ah, ecco, questo è interessante. Cioè, se conoscesse davvero... Perché purtroppo l'idea che lei ha comunicato è esattamente il contrario. Questo mi ha dato molto fastidio. Cioè, lei ha voluto comunicare l'idea di persone che, per esempio, non sanno nemmeno che cos'è Yolanda e Walter. Lei sa che cosa sono Yolanda e Walter? Da donna penso di saperlo. Per cui non è. Lo immagina, dai, no, ma chi entra qui è una donna perfettamente sana che conosce le cose che conosce. Per cui ha dato l'idea di una donna, di una suora di clausura come di una persona medievale, no? Cioè, esatto. Come una donna medievale. Le persone rinchiuse qui dentro contro la loro volontà, qui nessuno ci rinchiude, in qualsiasi momento siamo liberi di poter andare via. Ma che età è entrata lei, madre? Cioè, a che età ha scelto di... Io sono entrata a 25 anni, dopo una laurea in lettere moderne all'università qui a Napoli. Capito? 25 anni. Senta, no, mi dica la verità, ma adesso le faccio una domanda magari un po' bizzarra. Zarra per lei, ma lei quanti anni ha? Adesso il doppio, ma cioè 50 anni già? Esatto, quest'anno a maggio. Ma come fate con le pulsioni sessuali? Ma non ce l'hanno? No, nel senso a gestire questo, che sicuramente ci saranno, no? Immagino, no? Penso come per tutte le donne. Esatto, sì. Esatto. E come ogni donna che deve educare, no? Ecco, nel senso che anche le donne che sono fuori certo non possono lasciare libere le loro pulsioni sessuali. Beh, no? Molte lo fanno, sì, molte diciamo. Cioè... Non è vero, noi ne conosciamo tante, non è proprio così. Anche noi facciamo un percorso. È chiaro che la nostra prospettiva, il nostro desiderio va in un'altra direzione. E quindi come tanti che accentrano la loro vita per un ideale, per qualcosa che scelgono, così. Ma è difficile in alcuni momenti reprimere certe cose. A incanalare. Reprimere, diciamo, certe voglie, cioè, ma non lo so, è una domanda che mi sono sempre posto, adesso ho l'opportunità di fargliela, cioè è complicato, qualcuna non ce la fa, diciamo, no? Diciamo, com'è difficile per un uomo, per una donna, scegliere una sola donna per tutta la vita o scegliere un solo uomo per tutta la vita, no? Anche però è vero, hai ragione, però in quel caso, diciamo, c'è almeno una... Perché molti ci dicono che preferirebbero un harem, ma che non è possibile. Non lo dica a me. Ecco, appunto, quello è un mal vissuto. Però io so. Di un bene più grande che è quello della famiglia, del Lo so, ma madre Rosa Cruciani, lei non lo sa, è un mal vissuto. Che deve fare? Io purtroppo... Sto dicendole, cara madre Badessa, che il signor Cruciani, l'altro con la voce più... Non io, è un malvissuto, quindi è evidente che. Cioè, nel senso che. Diciamo che in genere i maschi sono così. Diciamo che. Li conosciamo, vengono qui, li conosciamo. Che vengono qui a fare? Scusi. Vengono lì a fare cosa? Scusi. Nel senso che frequentano il monastero, cioè un dialogo molto aperto. Quelli malati di sé, cioè, quelli malati. No, ma che ne so, persone che hanno bisogno di farsi aiutare perché magari non li tradiscono. No, in genere i maschi non hanno questa richiesta. Hanno desiderio magari sì di un'esperienza con Dio e in genere non gli piace l'esperienza della parrocchia. Però preferisco un'esperienza un po' più esclusiva, più riservata e quindi il monastero. Vengono per esempio a messa oppure conosciamo alcuni di loro, molti sono benefattori. Il monastero noi viviamo di carità fondamentalmente, perché sentono la regola di Santa Chiara che prevede la mancanza di rendite e noi non abbiamo rendite fisse. Senta una cosa, le posso chiedere che cosa pensa dei matrimoni omosessuali? Che cosa devo pensare? No, se pensa che siano... All'inizio della Genesi c'è scritto che l'uomo li creò maschio e femmine e diede a loro il compito, no? Di portare... No, però secondo lei i gay se si sposano vengono riconosciuti a loro alcuni diritti, è sbagliato secondo lei? Che i diritti gli vengano riconosciuti lo dicono tutti, lo dice anche il Papa, che però quello venga chiamato matrimonio siamo è sbagliato. Diverso. E l'adozione non ne parliamo? Ma io non parlo di sbagliato, non voglio essere fraintesa, semplicemente che non è così per le cose che noi crediamo. E l'adozione non ne parliamo nemmeno? Beh... Guardi, io seguo molto queste vicende e ci sono stati in America 4 figli di queste coppie che sono andati davanti alla Corte federale per chiedere che non si ripetano queste situazioni. Per cui per lei è sono varie posizioni, no? Che bisognerebbe valutare prima di prendere decisioni del genere. Comunque lei è molto felice di fare la suora di clausura. Ma certo, altrimenti sarei tornata fuori, me ne sarei andata in giro per il mondo, lei non crede? Se ne vanno molte persone, se ne vanno o no? In genere però prima di arrivare a una decisione definitiva come la professione solenne c'è un cammino di discernimento, per noi sono previsti circa 6 anni prima di arrivare a una decisione per definitiva. Per cui poche se ne vanno dopo 6 anni, diciamo. Penso sì, perché se decidono di andare via lo fanno prima, non aspettano 6 anni. Vabbè, mandi un saluto alla signora Littizzetto. No. No. No, è chiusa la questione, l'ho detto, ormai per noi è chiusa. La questione. Le mandiamo Cruciani, madre, qualche settimana, va? Se lei, beh, magari a vedere come state, come lavorate. No, io no, lei diceva la Littizzetto, no, non io. Arrivederci, suor Rosa, l'abbraccio. Arrivederci, grazie per la gentilezza. Grazie a saluti, lei, madre. Grazie a lei. Vabbè. Ci sentiamo arrivederci, domani. Arrivederci, va? 18:30, dai, ciao. Se un uomo non riesce ad avere una eiaculazione, minimo entro 2 giorni, io credo si senta male, mi devo rivolgere sia alle prostitute. In quel caso decidono donne o trans o uomini, che comunque va molto di moda ultimamente, soprattutto quelli più dotati, chiaro? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego.